Va bene, benvenuti. Ci siamo? Sì, ci siamo. Benvenuti, benvenuti a un nuovo episodio di Titans and Dragons. E com'è? Come? Oggi continueremo in realtà lo special di Halloween con Katta, e si è trasformato nella maledizione di Katta. E giocheremo alla sempre a Dungeons versione 5.0, ma com'è il nome dell'avventura? La maledizione di Strand. Esatto, e proseguiremo in questa avventura. E come avete visto, un sacco di gente si è voluta aggiungere. Perché sapevamo che il master era la raccolta dalla strada. Visto che il master era sottolineato. Un incontro casuale. E quindi insieme a me, da Giacomo Vecchi, da Bologna, abbiamo Stefano Gamberoni, Edoardo Saladini. Mi sarei venuto anche l'altra volta, ma non mi avete fatto venire. Un caldo bentornato, soprattutto per la sua polemica. Vena polemica. Un bentornato anche al nostro. Ai nostri Giulio Bosi. Sono più persone. No, Francesco Arcidiacono, eccolo qua, guarda, te vedi. Basta. Fai vedere. Luca Lazzarini. A me non dici fai vedere. Fai vedere. Luca Lazzarini, fai vedere. Luca Lazzarini. Oh, brutta è quello che viene peggio. Non lo so. Luca Lazzarini e, per concludere, il nostro master d'eccezione, ma non più d'eccezione ormai, Enrico The King Cattabriga, di cui abbiamo ritrovato un documento risalente al 98. È stato da prima di iniziare. Vi ricordiamo che ci potete seguire sui canali social di Titans and Dragons e di GDR. Ringraziamo i nostri sponsor. La pizza in pale. E ricordatevi di firmare la petizione per la pizza in pale, vero Arci? Va bene. Senza rompere gli indugi. Sigla e cazza. Via, non vai questo. Vedo che ha preso la grande. No, Vez, questi problemi tecnici ogni volta. Non sarebbe. Dovresti prendere anche tu il coso. Ok, Google. Avvia sigla. Alexa, sono triste. Allora, andiamo in giornalisti, raga, cosa ci banano? Allora, un'arma semplice. Ma che cazzo ha stampato il quaderno? No, ma non è stampato. Ma non è in italiano. Avendo io carenze in inglese, non rompendo di coglioni ogni due secondi, ho fatto così. Ma poi rompi i coglioni lo stesso, perché lui manda le cose in inglese. Cos'è l'arco? Quando mai combatti con un arco? Da averla, okay. Però, da vendere, qua per questo. Prendi il bastone e l'altro costa un po'. Aspettiamo che parta la sigla. Lo userò come sottofondo. E per riassumere un pochino che cosa è successo, anche per chi non ci ha seguito, non ci ha però vi dovete immaginare un'inquadratura dall'alto. Questa cosa strada. È importante dirla, perché anche chi è qua non ha seguito, non lo nasconde. E che cosa è successo? I nostri prodi eroi sono arrivati al villaggio di Barovia con una lettera di invito, speranzose di andare ad aiutare una donzella in difficoltà. Pasca di it. Esatto. Purtroppo però per loro è iniziato l'incubo. Ma questo è nuovo, raga. Sto a fare. È il terzo braccio di me quella. La cacata è tipo da mille anni che c'è. Sì, è vero. È il terzo braccio. C'eri ancora tu. Più o meno. C'eri anche te. No, no, con tutte queste braccia, ste robe mai viste. Ah, quello forse. Quello no, quello con l'urbanismo. No, con l'ultima di urbanismo c'era il braccio perché era di Natale, tu l'avevi preso a Natale. E quindi abbiamo una colonna sonora tipo sempre? No, adesso finiamo. No, no, è al posto della sigla abbiamo una colonna sonora d'accompagnamento, ma che noi stiamo coprendo. Quello non è la voce. Però farla in realtà non è il microfono, questa è la cassa. Anche per i fights sarebbe bello. Tipo tu c'è un immoto, dun dun dun dun. In realtà adesso che non hai una certa preparazione su Skype, la farò. Ci dovremmo mettere i pulsantini qua con le varie... Sarebbe chi? Ah, lo usavamo una volta. Allora, cerchiamo di stare concentrati. Comunque ci sono anche semplicemente le app che fanno le atmosfere. Tipo quello di cui stavamo parlando. Cazzo, devi dare, vaffanculo, scemo. Rega, vuoi dare la lavagna per il brainstorming? Cioè, non si è sbattuto di più. Adesso, dobbiamo fare questo, quello, quello. Allora, tornato siete entrati nelle terre maledette di Barovia. vi siete accorti che la quanto è figo quella musica. Questa valle sta rompendo il cazzo, ha sempre un tempo grigio, il cielo è sempre plumbeo, cioè, l'ho già passato io. E il sole non splende mai pienamente, c'è sempre qualche nuvola, qualche cosa che rende tutto in penombra. Inoltre la vegetazione, le piante sono distorte, gli animali vi sembrano feroci e più selvaggi del solito. E poi dovresti vedere gli interni, super decorati, esatto, ragazzi. Pazzesco. Invece hanno dei designer molto alla moda. Va bene. I nostri eroi si sono avvicinati al villaggio di Barovia perché avevano ricevuto una lettera per andare al salvataggio della figlia del borgomastro. Come sono arrivati, una fittissima nebbia ha bloccato loro la strada e li ha fatti, diciamo, deviare fino a portarli, esatto, alle soglie delle porte di questa casa, dove hanno trovato due simpatici bambinetti di pelle violacea. Di pelle violacea. Che chiedevano aiuto. Loro, essendo tutti dei bravissimi cittadini, hanno deciso di aiutare queste povere persone. E io ho nasato la fregatura da 50 km di distanza. No, no, il bimbo più piccolo e la bimba più grande. La casa ovviamente era maledetta. È stato un viaggio affascinante e ricco di emozioni. Cazzo, no? La casa ovviamente era maledetta e li ha, diciamo, messi alla prova facendoli viaggiare attraverso le sue stanze e i suoi sotterranei. Si sono trovati di fronte ad una prova, una scelta molto difficile, ovvero se sacrificare la vita di un loro compagno oppure non è esattamente andata così. Cioè, io non l'ho capita, perché se l'avessi capita non ci sarebbe stata certo problema, sarebbe finita com'è, non è andata così. Non sapevamo dove fosse. Tutto è bene quello che finisce bene. E quindi hanno sconfitto la malvagità che albergava in quella casa e sono usciti vittoriosi. Ah, era un B&B? Quelli, esatto, una volta usciti dalla casa, la prima cosa che siamo usciti dalla casa. Esatto. Siamo saliti di livello. Ah, no, prima di livello. No, ma dai. Allora, voi le cose che avete preso nella casa prima di salire di livello. Vi ho fatto segnare che erano della casa, sì, perché spariscono. Una volta uscite dalla casa spariscono, ma adesso io controllo. Spariscono quelle che avete preso nei piani della casa, quelli che avete preso nel sotterraneo rimangono. Vabbè, i tesori ci sono, i tesori quelli li avete anche, però non ci avete fatto, perché non ci hai fatto scrivere della casa, monetina 1 della casa, monetina 2 della casa. E rimangono anche i libri che aveva trovato. Oh, il tesoro non si divide, è nostro, noi tre. Vabbè, adesso non vi dovete incontrare, oppure divide, rimane all'ultimo video. Era mio amico. La prima cosa che quindi volevo, l'ho bruciato con Ade. Che cercate voi poveri avventurieri sconquassati. Quindi la spada della casa se ne va. Il long rest. Spada della casa sì, ma sì. Avevi trovato una spada corta d'argento. Ah, quindi voi siete moribondi? Io faccio no, il in realtà no. No, stanno bene, però ovviamente la prima cosa che vogliono dopo tipo tre giorni che di torture, long rest, non long rest. In realtà abbiamo trovato un casino. Esatto. Io faccio il very long rest. Per comodità. Quindi loro non vogliono dividere il tesoro, ma sono moribondi. Noi gli diamo ragione, non lo dividiamo con loro. Giusto? Neanche ci siete, cazzo. Non ti preoccupare. Certo che ci siamo spoilerati. Esatto. Nel checkpoint. Per comodità vi dirigerete alla locanda, dove per comodità ci sarete anche voi. Siete nella locanda. Allora andiamo in un'altra locanda. Sono arrivato comunque solo a quello. No, comunque sì, cioè quando usciamo dalla casa, prima c'era tutta la nebbia, adesso la nebbia non c'è più. E il villaggio c'è l'anima viva o cominciate a vedere un po' come è fatto questo villaggio. Se mi fossi ricordato vi avrei dato la mappa. Però vabbè, potete avere una diapositiva. Ma il nome? No, si potrebbe dare il nome. Si chiama Bart adesso, sì. La casa è qua. Qua c'è la taverna. Dove sì, ma noi andando. Un po' l'avevamo visitato, era tutto deserto. Ma siamo usciti ed è... Ma questa è una specie di villaggio fantasma. Sì. No, cioè... Devastante. No, no, non è esattamente vivace come villaggio, però è abitato. Okay, se lo metti... cioè è abitato, dico. Non è sì, tipo è abitato, però... Quando siamo arrivati era tipo Silent Hill. Quando sono arrivati c'era, vediamo solo la nebbia e questi due cenni viola. No, anche delle case disabitate. Esatto, c'erano le case che vedevate, soprattutto tra, quelle intorno ai bambini. Ehi bambini, ai vicini dove sono? Non c'è nessuno in questo posto. Perché davvero lì le case vicine alla villa erano... abito nel villaggio non c'è nessuno. Vabbè, ma qui adesso la gente c'è tutto come fosse tornato ormai. Allora, non è la parola normale non fa parte dell'immagine. Ma gli ammazzo, brucio tutto. E tu hai detto che era una pista normale. Ah, no, aspetta, la casa che fine fa? La casa è lì, dietro di voi, che vi guarda. No, in realtà è... che vi guarda. Però diciamo che l'impressione che avete è che sia più normale rispetto a come era quando vi siete entrati. Volete tornarci dentro? Niente, no! Sì! La porta è chiusa. La sfondo. Andiamo avanti. Che parte? Cosa doveva essere? Ovviamente la nebbia... si dirà da quel giusto che basta per farvi vedere le case del villaggio e potete osservarlo meglio il castello di Ravenloft. Io c'ho la scaga della nebbia. Comprensibile. E... cioè, siamo in una sorta di pianura padana. Non siamo arrivati, vero? Siamo in taverna, mi sa. No. Ci sono appunto. Sono in bagno in taverna. Sono nel bagno della taverna. Ok. Mm. È una latrina a cielo aperto. Vabbè. Appunto. La trovi tutta sporca. Ho sbagliato mira, è tutto sul muro. Sto su un casino. Ok, immaginavo. Il villaggio è alle piedi di questo... Monopoli. È andata bene. Grossissimo pilastro di pietra sulle quali è stato costruito il castello. Di pietra o roccia. No, una è più morbida dell'altra. Devi... sì, sì. E il castello è praticamente questa lancia che perfora il cielo e sale dritta e grava come un macigno sulle case dei poveri abitanti. Okay. Le case di questo villaggio sono anche queste, anche se molto alte e scure. Le finestre di ogni casa danno su praticamente dei pozzi di oscurità. Guardando dentro vedete solo delle tenebre nella maggior parte delle case. Non ci sono dei rumori forti che vi possono, diciamo, distrarre, ad eccezione di questo pianto che sentite. No, basta, cioè dentro la casa piangeva il cazzo di bambino. Okay. No, non piangeva il bambino. C'erano mi sono immaginato che il bambino piangesse. È probabile. Sentite questo pianto in lontananza. Questo nuovo, vero? Sì. Beh, lo sente chiunque viaggi per le strade. Di nuovo il pianto. Beh, anche tu, perché sei tu che stai viaggiando. Ah, no. Qua e là vedete qualche abitante. Sembra gente molto povera. Le espressioni sono l'opposto di quelle che possono essere la gioia e la felicità. E vi guardano. Sarebbero cazzo, quindi non mettermi in difficoltà. E come vi vedono, si richiudono in casa o comunque cercano, fanno giri lunghi per evitarvi. C'è la colpa di Roarsi. Lo spoilerare. Vedevo che si guardava intorno, non voleva bere niente. No, voleva bere l'acqua. Così in realtà, beh, c'è l'acqua zero. Controllata di brevemente una bomba che era sentito in test, no? Dentro, sì. Per la gentile concezione di Luca. Grazie, tu sei una persona seria. Di brevemente di edifici interessanti nel villaggio ci sono un mercante da 1,35, la taverna, la casa da dove sentite venire questo pianto, ci sarà anche dell'altra, la casa del borgomastro e la chiesa. Ok, mi dirigo verso la casa del pianto. Nella casa del pianto. No, aspetta, dove vai? Cioè, dove qui il pericolo alberga dietro ogni angolo. Appunto, andiamo a ucciderlo. del mio profilo. Non è da aggiungere. Metto a parlare con voi. Ma intanto noi siamo nella taverna. Ma io non so se andate nella taverna. Ci conosciamo noi. Così fate amicizia. Vabbè, andiamo nella taverna. Entrate nella taverna. Giulio, come ci fate una scelta? Il camino è acceso. Do fuoco alla taverna era la risposta esatta. Proprio come? Noi tre ci conosciamo già. Di vista siete entrambi, entrambi, siete tutti e tre avventori del locale. Cioè, ci prendiamo la birra lì spesso? Vabbè, voi siete, siete arrivati dal vostro viaggio. Il delle montagne. Vabbè, è più basso di questo. Tu hai sei proprio una fighetta. Sei comunque giunto qua perché la tua foresta era perseguitata da attacchi di bestie strane. All'inizio sembravano dei branchi di lupi, poi però hai cominciato a trovare tracce di bestie simili ma più grosse, più feroci. Sei arrivato in questa terra per indagare e ti sei ritrovato avvolto dalle nebbie. Questa nebbia dense e impenetrabile alla vista. C'è mezzo un A parte perché non ha scura visione. No, anche che scura visione perché non è buio. Però effendi nebbia. Ti sei ritrovato all'ingresso di questo villaggio. Ok. E tu che storia avevi pure la bestia? È entrato nella locanda. Io? No, l'altro. Io fino a che è entrato nella locanda. Mi fa arrabbiare. Vai, presentatevi, raga. Presentatevi. E diciamo che il mio ideale è cercare di prima o poi ritornare alla mia perché famiglia. Perché Shio si presenta ogni puntata? Ok. Con un personaggio nuovo! Come vi dicevo, vi siete tutti e tre accorti che cercare di tornare indietro e riattraversare le nebbie è impossibile. Perché queste vi soffocano. Merda, se vai. Guarda che roba. Merda, se lo... Shio ha 17 in forza, 17 in costituzione con modificatore più 4. Trent'anni che giochi a D&D. È più 3. Cazzo. Invece il che pensi della pubblicità che hai? Quindi devo togliere anche 3 punti ferita. Cazzo, è vero. Porca troia, che figura. Vezza la gomma. Qualcuno ha la gomma. Puoi correre da lui, questa è la cosa più brutta. Perché è l'unico che ti ha guardato la schiena. È vero. Come vi dicevo, giungete nella piazza principale. Io ho 8 in forza con più 5. L'unica fonte di luce che c'è, quello è corretto, che dà sulla piazza è quella che viene dalle finestre della taverna. Brutto. Dove ci siamo noi? Siamo noi la luce, forse. L'insegna dice che questa è la taverna del sangue della vigna. Mai il cazzo della vigna. La vigna, la gnocca, il sangue di Lavigna, cara della vigna, il sangue del vigna, la vado a cercare. La vigna è quella che versa dove bere, no, è quella con le sopracciglioni neri e bionda, quella che fa l'incantatrice lì, esatto, quel film di merda. Suicide Squad. Ah, non l'ho visto, è lei. Ah, è gnocca la cara della vigna. E, aprite la porta e il calore del locale vi avvolge insieme ai canti e ai suoni dei calici che brindano. Sputo per terra. Chi è che brinda? Voi che siete dentro la locanda. Noi io sono astemio. Vabbè, brinderei con dell'acqua o della Coca Zero. Anche qua sei astemio. Vedete del vino zero, ai vino tavoli zero, vino zero, vino zero, idromele zero, Vedete seduti ai tavoli un hipsterino che posta su Instagram i suoi selfie. Tu cosa sei? Un umano? Un hipster. È proprio razza hipster. Un nano nudo e scapigliato. L'hai messo in pregio o difetto? Con un aspetto molto felino. No, è l'aspetto. E un altro nano, un vestito, sempre scapigliato, con un aspetto molto ferino. E oltre a queste persone ci sono il barista. Host si chiama. È un bar. No, host è il nome, il barista è il lavoro. Barista host. Ah, host. Il barista. Il barista è host. Come Gilda, il mercenario. Tre vistani. I vistani sono una popolazione nomade che attraversa queste terre molto spesso e commercia appunto portando merci. E loro passano attraverso la nebbia come niente fosse. Li avete visti passare in questi giorni. E questi qua invece... Possiamo metterci una scatola per uscire da qua? Ci possiamo trasportare fuori? Come... E chi le trasporta? Loro. Dai. Loro quando escono. Se non la aprono per poi rubarti tutto. E i loro allineamenti possono ricordare quello dei nomadi e gente dell'est e anche il loro accento. Ci sono queste tre donne che sedono allo stesso tavolo e chiacchierano e un uomo abbastanza ben piazzato e contrariamente a tutti quelli che avete incontrato in questa terra mi sembra anche abbastanza vivo, ha un colorito della pelle normale e ha insomma dei modi di fare gentili e sì. Sembra conservi ancora un certo spirito e una certa forza vitale. Viserys, Jamie Lannister. Emma. No, Emma. Oggettivamente sono più bello. O più bello. Quando vi vede entrare, appunto, molto molto allegro e con un grande sorriso. Ha bevuto anche lui il vino zero. Esatto. E annuncia, dei nuovi visitatori. Era da un po' che non se ne vedevano, dobbiamo festeggiare. E vi invita a bere. Ma a loro sono entrati? Sì. Ma il giro lo paga per tutti gli avventori. È abbastanza ricco. Mi avvicino alla sua bocca. Grazie, buon uomo. Questo è un uomo. Okay. Si presenta. Il suo nome è Ismark il Minor. Ah, ma come lo chiamano per gli amici? Ma non significa nulla. Scusa, come lo chiamano gli amici? Ismark il Minor. Ismark il Maestro. Se lo chiamano gli amici, lo chiamano il Minor. Come lo chiamano gli altri abitanti del villaggio. Ma il suo nome vero è Bismarck. Ismark Koljanovic. Koljanovic. Koljanovic. Io mi avvicino perché se è un riccone sono curioso di stalkerarlo. È un po' un ricchione, sembra. Che non mi interessa. Ditemi, cari visitatori, cosa vi porta della nostra ridente città? Non sembrava così ridente fino a poco tempo fa. Sì, purtroppo viviamo in tempi difficili. Più o meno dagli ultimi 700 anni. La casa stregata aveva un effetto strano su questa città. Sembra avere un effetto strano. La casa stregata? Volete dire la casa dei Darst? Sì. Siete entrati nella casa dei Darst? Sì, abbiamo fatto tutto il giro turistico. Sì, abbiamo sconfitto il male che vi albergava. Abbiamo bruciato la casa dei Darst. Ci abbiamo provato. Abbiamo affrontato quell'oscuro luogo. A proposito, avete pece in quantità. Siamo riemersi per dare libertà a questo luogo. È un luogo di eterna malvagità. Abbiamo provato a bruciarla non con abbastanza volte, ma dopo una settimana, dopo qualche giorno, una settimana, era di nuovo lì, come nulla fosse cambiato. Quando siamo arrivati, però, la situazione qui era molto diversa. Quando siamo usciti, sembra migliorata. Voi non avete notato nessuna differenza? Ma mi tengo lontano il più possibile da quel vicinato. Non sei sorresi quindi praticamente? Che cosa è cambiato? Tipo adesso non c'è la nebbia ovunque. Esiste la nebbia va e viene. Quello potrebbe essere un caso. Ma era una nebbia che mi uccideva! Ah sì. Mi sono detto io no, mi ci vizio neanche per aspettarti. Che cosa aveva portato per la strada per entrare nella casa? Una lettera d'aiuto. Interessante. Da chi? Dal signor Strad. Big Strad? In persona. Ok, non era firmata a lui, ma la calligrafia era la sua. Cosa? E da chi era firmata? Cioè, lui ha falsificato il suo stesso biglietto. Perché in pratica ci ha tirato qua, firmandosi come il borgomastro della città. Però in realtà noi abbiamo preso... Come pronunci questa parola, lui ti guarda stranito perché... È lui il borgomastro? No, lui è il minore, è il figlio del borgomastro. Junior. Mio padre ha fatto cosa? No, non hai capito. Allora. Abbiamo ricevuto una lettera firmata dal borgomastro, ma la calligrafia in realtà è quella di Strad. E come avete fatto a saperlo? Abbiamo avuto un tour dentro una casa significativo, abbiamo scoperto un sacco di cose, comunque non è questo il punto. Ma non è questo? No, no, voglio fare il riassunto. Posso vedere questa lettera? Ce l'abbiamo ancora? Boh, sì. Questa è. L'importante è che non la resi io. Esatto, è stata bellissima. Intanto scrivo. Guarda come ingegno il mio personaggio. Avete ragione, questa lettera non può essere scritta da... è stata scritta da mio padre, perché mio padre non è so morto. Scrivere. Non so scrivere. Vabbè. Comunque il prossimo, volevo dire con gli altri. Fortunato. Ma quindi ora sei tu. Stavo per dire la stessa cosa. Io guardavo per dire, non mi esatto. Ma ora quindi lei è il borgomastro di questa città. Posso stappare? Sto facendo le sue veci. Esatto. È un dovere che mi tocca, è molto difficile da aspettare. Soprattutto perché... Ma si chiama lui, hai detto? Ismark, il minore. Assaggio che non sia sgasato. Ogni tanto mi hanno raccontato che succede. Il conte, che si sgasi. Dovete sapere che egli, il conte, non è solo il regnante di questa terra. Egli è questa terra. C'è un fulmine, si sente un entrare dei cavalli. Sì. Luca Strad, esatto. Devo prendere il pulsantino. Io sono in un angolo che, cioè, sono vicino, ma prendo appunti. È un essere di estrema malvagità e da gusti e modi per essere estremamente perversi. Spesso attira di carne fresca nelle sue terre per non farla più uscire. Ma la sua perversione ovviamente non finisce qui. Beh, gli è andata anche abbastanza bene, perché 3 su 4 erano carne fresca, uno era già mezzo andato. Sì, in effetti meno fresco se ne è andato. Ma la sua perversione non si limita a voler raccogliere sempre nuove prede, ma prima vuole giocarci. Vuole vedere fino stavolta a quando... Stavolta per... Può spingersi. Pedone in F5. Una persona... in basso prima di cedere alla sua presa oscura. Quindi mi ha fatto andare nella casa un po' per prova, tipo. Esatto. Beh, in effetti c'era una stanza. Dov'è al borsello sto tizio che parla? alla cinta. Oddio. Ah, mentre parla io prendo appunti e poi dopo un po' provo a sfilargli degli oggetti dal borsello. Va bene, fammi finire di parlare e poi puoi provare. Ah, te lo dico così. Sì. Te lo dico. Fai la manovra. Fai la tua manovra. E... no, prendiamo sta coca zero. Io vi devo chiedere più 5. Ok, mentre parla mi avvicino, inizio a fissarlo e gli sposto tipo la testa, fissandolo attentamente. Ma non può sgamare, perché lo faccio di mano a mano. Non so, così. Ah, okay. Se perché per male, assicurarmi che sia una persona normale. Così. Purtroppo una disgrazia si è abbattuta sulla nostra famiglia e non mi riferisco alla morte di nostro padre. Nostro. Perché lui ha una sorella. Ma chi? Chi te l'ha chiesto? No, sta bulleggiando il master. No, ma io lo dico al tizio. Cap- capisco che le vostre condizioni vi portino a riuscire le vostre rude maniere, ma io vi sto scongiurando di aiutarci. E mi dispiace approfittare delle vostre sventure. Niente ormai. Ma. Cioè, abbiamo perso un compagno, bastardo fortunato. Due volte. L'ha detto veramente? Parlavi di me, adesso di me, l'altro me. Ade! Non so, cioè abbiamo perso un'unica persona, sei l'unico coglione che è morto. Magari parlavi dell'avversario. Metto la mano sulla spalla di Giulio, ma avremo la vendetta per lui. Ma sti cazzi. Ecco. Lui ha già vinto. Lui ha già vinto. Lui ha già vinto. Ok. La disgrazia è che... quindi tu scusa, lui dove abita? Cioè tu dove abiti? Nella casa del borgomastro. Il mio PG prende appunto. Cosa cazzo dici? Ma in città? Nel villaggio qui vicino. E, mia sorella Irina è Irina. Diventata oggetto di... Tipo. Scrivi Irina. Ma io non romanese. Lo stesso. Si vede uno che scrive, scrivi. Irina Coliana. Se leggete nel taccuino dove sto scrivendo c'è scritto Coliana, all work and no play make Jack a dude. No, non sto scherzando davvero, perché ho il coso che scrivo e c'è scritto un'altra cosa. E cioè, gli altri vedono un'altra cosa, sì. E diventa, è stata presa di mira dal conte. E quindi penso che sia presa dal conte. Di mira dal conte, ma di mira. Che evidentemente ha la scelta. Beh, sembra un buon partito il conte comunque. Non so. È regnante di tutta sta terra e sembra un buon partito il conte, è un'affermazione che sta in piedi, cioè si regge. No, scusa, mi sono perso. Sorella Irina cosa deve fare? È stata presa di mira dal conte, no, che sta cercando una nuova consorte. Ah, fatto quello da Rodrigo da Sito. La sorte che attende alle consorti del conte è tutt'altro che raccomandabile. Beh. E io sto cercando il modo di salvarla. La salveremo noi! Portandola nel villaggio di Vallacchi, il più lontano possibile. Il più lontano possibile dal grinfio del conte. Nel che sei froce in mezzo. No, no, non lo dico altra voce questa, lo penso. Non ci conosciamo ancora, tra l'altro. Lui sarà lì. Purtroppo, però, la nostra condizione è aggravata dalla morte di nostro padre, e che ancora deve ricevere una degna sepoltura. E questa cosa non l'avete bruciato? Non è nelle nostre riti. Dovreste iniziare. Dovreste provare. Dovreste provare, dopo non smettete più. È pratico, veloce. Troppo per... No, ma è nei tuoi tratti, piroma. Ora sì. Difetti, piroma. Pregi, piroma. Io lo metterei negli ideali. Voglio vedere il mondo bruciare. Allenamento caotico, piroma. Purtroppo hai fatto Joker, è un caotico malvagio, quindi. Il funerale non può essere celebrato perché il prete che sta nella chiesa della città si rifiuta. Abbiamo un prete? Non ho compassione per i morti. Ecco che non ha compassione. Devi bruciare una persona. Che a me lo faccio io. È la stessa cosa che abbiamo fatto con, come si chiama, Ade, l'Aide. Non vorremmo che venisse seppellito, sì, con sull'altare. Ah, è vero. Il rito che avrebbe voluto nel cimitero del villaggio. Vabbè, facciamolo. Facciamo sto. Allora, io se volete posso farlo. Ho un minimo di religione. Vi ringrazio infinitamente. Prego, allora, seguite. Cioè, in realtà lo potresti fare tu. No. Però non te ne frega di giocare il tuo personaggio. Qui ci sta. Aspetta, fammi provare a prendere il primo oggetto. In realtà anch'io non ho compassione per il mondo. Mano magica. Mano magica. Cosa sta facendo? Una sega. Prova a rubare. 10. 15. 10. Lo corrompe con una sega, credo. Ah, vuole rubare roba? Sì. Roba. Vuole fare roba con roba. Non si ruba le robe. Cioè, io in realtà sto ancora scrivendo, però sto un po' guardando con la coda dell'occhio la borsa perché sto stilando con mano magica qualcosa. C'è il primo item che c'è. Il borsello, ma solo il borsello. 15. Trovi una moneta d'argento. Quanto mi dispiace per suo padre. Ah, allora grazie. Sono molto sollevato. Però prima vorremmo riposarci un po'. Sono più leggero. Sì, sì, ma è previsto. È previsto. Io mi alzo dal. Alzo da qui e faccio. Ma scusi, è previsto una ricompensa per questo? Ma tu non sei lì. Sì, sono lì. Sì, sono in giro. Ma chi sei tu? E chi siete voi? Sto parlando con questo. Sì, ma lui stava parlando con noi. Stava parlando con tutti. Risa! Boom! E ha offerto anche a me da bere. Sì, è un danno collaterale. Immagino voglia aiuto da chiunque, no? Sì, sì. Chiunque possa aiutarci può. Lo accetto. Iniziativa. Signor Koglionovic. Mi è parso di sentire che c'è una donzella in difficoltà. Eccolo. Il druido marpione. Il druido sexy. Sono donzelle che vanno a pazzi di un sacco di animali. Più siamo, meglio è questa. È questa. ho sotto pezzi di cavallo. E aspetta dei livelli. Sono... Per pensarvici sono le casse del Borgomastro che potranno essere a vostra disposizione. Raccolgono molti anni di risparmi sudati da vi aiuterei volentieri. Intanto aspetta, sudati da e mi scrivo. Dai poveri contadini. Ma non dovreste darli al vostro signore feudale? Perché non avete dato i soldi al vostro signore feudale? Caotico, Giulio, fetta. Cazzo te ne frega. Esatto. Nulla. Nulla, infatti, cioè, non mi interessa. Giusto per mettere il nome un po' di allora, intanto io mi scrivo. Richiede una grossa fetta dei tributi. Quello è quello che ci rimane dopo anni e anni di risparmi. E signor Cognome, e non lo reinvestite. Il tempo del conte Strad deve terminare. Cioè, qui c'è troppa ingiustizia. Comunque io mi scrivo casse del Borgomastro come ricompensa. Se qualcuno di voi legge, c'è scritto all work and no play make race ad all boy. Race. Vabbè, comunque ok. Facciamo conoscenza allora dei questi ficcanaso. Che cazzo li chiamo? Patk. Io sono Patk. Atanas. 7 e sono qua per 3. Perché 4 ma anche 2. 42. Cos'è? Vabbè, era per dire di avergli riassunto dal mio background. Ok. ATH. Oh, un altro nano. Ciao. Ah, anche tu sei un nano delle colline. Sì. Che collina vieni? Quanti nani ci sono in questo gruppo? Sono la tua, ma non so da dove vieni tu. Collina A, secondo tu. Io sono Race. E intanto mi faccio tipo mi arricci baffi. Ma cos'è? C'era, cerume. Che ti metti nei sui baffi? Fa lo stesso, sono Race. E vorrei darvi una mano. Per la giusta ricompensa. Ma non la farò vedere questa mano. E intanto gioco una moneta d'argento. Adamas. Piacere. E gli altri. Forse. Bardistra. Io ci sono portato. Tanto lui non se lo ricorderà mai. Bardistra. Lo chiamiamo Ward. Voglio brindare Ward con lui e gli dico se c'è da menarlo. Cioè, almeno io lo chiamo Ward. Barista. Speriamo di no, Mastronano. Speriamo di no. Comunque, io sono un umano. Di coso il boccale. Alto, magrolino. Con sopra la tipo K. Capito. Ipsterino. No, si sta. Ipsterino. No, giusto, dobbiamo anche descriverci noi a voi. Ipsterino, no. Quindi barbetta, e baffetti arricciati. Hai tipo il cappello alla Peaky Blinders. No, no, il cappello, hai i capelli indietro, ma rasati ai lati. Oh, figo però. Cazzo, è figo. È più figo di Adele. Non morirai forse. È un po' più film. No, non è proprio. Le mantelle. Sul mantello. Hai anche degli auricolari wireless. E tu sei? Bayern. Sono come lui con l'armatura che voleva, ma non mi riesco a trasformare in animale. Perché per essere caldo freddo. No, io quello più pesante. Sono un umano, pure io. Abbastanza quindi alto. Quindi caldo né freddo. Abbastanza freddo. Grosso. Abbastanza alto cosa vuol dire? 1,90 per 90 kg. So che non per tale una soddisfacente. È alto, è il classico personaggio di giù. No, si salto sono io più bassi e più magri. Sono 1,70 magrissimo. Ok. Io sono 1,61 per 87 kg. Che è il nano delle montagne, più alto dei nani normali. È più largo. Quindi io sono più largo. 17 in costituzione. Col più 4, ti penso a te. Esatto, quindi che 17? Io ho semplicemente brindato col tipo ignorante. In realtà avrò tra i 35 anni, tipo, che tra i 30 e i 40 anni. Io sono un bambinetto, tipo 17 anni. No, no, meno, 16 a anni. A vedermi ho tra i 30 e i 40 anni. Ma come fai ad avere dei baffi così? Io guardo tutti con la perubati. È D&D. Ho disguise self. Però ho già tutti... Ho uno sviluppo precoce in terza media, già peloso. Ho un po' di barba, però tipo bianca, grigiastra. E i capelli rasati, sì. Nonostante tipo l'altro, la cenere, tipo Jack la barba. Ce l'ha con i camini, sai. No, vabbè, avete presente coso The Witcher? Solo con i capelli rasati circa. Quindi sei Harry Cavill, fai anche Superman. devo vedere come Harry Cavill sembra un cosplay. Quindi hai i baffoni. No, i baffoni. No, ho la CGI che, no. Ok, degli atolli. Sono pelato con la barba, ho un paio di cicatrici. Non come ti chiami, cicatrici? Garrosh. Si chiama Garrosh. Che cazzo sei, ungherese? No, sono un... No, è un piatto ungherese, sì. Oddio. Vabbè, facile. Goulash. Salbaristan. Bayern. Evanatos. Evanatos. Reis. Te lo ricordi il suo nome? Sì, Salbaristan. Vabbè, è simile però. Bardi. Bardi, vabbè. Puoi chiamarlo Ward. Chiamalo Stan. Bardi c'entra qualcosa. Stan. Jamie? No. Ok, ma per un attimo lo no, ok. Io non so, non ho scritto mai niente, però sarò un 80 con i capelli lunghi. Bella lì. La barba. Bella lì. Sei biondo con i palini? No, sono... Scusa, alto, biondo, occhi azzurri, cazzo, il paladino. Vogliamo farlo un paladino negro, cazzo. Sì, oh! Vogliamo farlo un certo paladino negro. No, devi farlo. A un certo punto io tiro fuori, tipo dalla cintura, prendo una cosa sferica, che è una testa di bambola. Lei invece è Isabel. Si gira con questa... Ciao Isabel. Come fai a saperlo? No, sto dicendo da giocare. Allora, ho sentito dire. Piacere Isabel. Piccolo, piacere che vorrei. Devi vedere come lo uso. Piccolo amico, ma lo dicono sempre, quindi a te posso ad ascoltare. Da che zona vengo? Non lo so. Io e te. Non so dove ci sono in questa mappa delle montagne. Vabbè, vengo dalle montagne. Ma nessuno di noi è di qua. Di fuori. Quindi. Lui mi ha chiesto dove vengo. Lo decidi tu da dove vengo. Per fare un po' della montagna. Dalla montagna degli stronzi. Da lui non che dalla montagna degli stronzi. Non importa da dove vieni, importa chi sei ora. No, io vengo dalle montagne molto. No, ti vengo dalle montagne. Importa quanti ne uccidi. Ah, ben detto. Conta come uno. Non fare il galletto. E quanti ne ho uccisi io? Beh, una volta che muoio non ho più pietà per loro. Muore, non ho più pietà. No, però prima è molto pietoso. Sì, esatto. Nas. Oh, non ho più pietà. Anche lui è uguale. Tipo, no, non morire! Non ho più pietà per loro. Va bene. Dico che sono... Qualcosa mi ha portato molto lontano da casa. Chi? Qualcosa? Non chi? No, chi vogliamo... Ormai è la catchphrase di... Ma vogliamo detto muoverci... che delle montagne erano un po' più. Vai, andiamo. Vogliamo muoverci insieme. Facciamo questo ito, così possiamo punto. Partire. Anche perché sembriamo le uniche persone normali di questa. È tempo che tuo padre riposi finalmente in pace. Signor Kojanovic, ci mostri la strada. Vado. Un'inspiration, ti prego. Questa merita un'inspiration. Sai che me lo puoi dare? Una inspiration. Cosa? Possiamo riposare? Sì, ne sono appena nato. Sai com'è? Se la vuoi dare, possiamo riposarci. No, è tempo che recuperare. È tempo che il borgomastro riposi finalmente. Andiamo. Dobbiamo riposare anche noi. Noi siamo appena usciti dalla casa. No, ma voglio farlo subito. E Reguz. Vado a dare da mangiare a Racebet e torno subito. E vado fuori dalla locanda, ho un pipistrello. Che cazzo ha detto i secoli? Quando vuole se ne fare il Racebet. Quindi Racebet quando vuole è Racebet, è il mio Racebet. È il mio. Betta andrà molto d'accordo con Isabel, secondo me. No, Resbert. Questa cosa. Il tuo batterese, che tutto suonava meglio. No, Resbert. Quindi Verso pronto a partire. No, non partire. No, Verso è un rituale, poi dopo riposo e partiamo. Questo era l'idea. Verso è pronto ad andare a seppellire il tipo. Andiamo a seppellire questo tipo. O dormiamo. Era quella la decisione che dovete prendere. Cosa fate? Reseppelliamo il tipo. Cioè, possiamo anche dividerci. Non so, ci potete anche dividere. Da quanto richiede questo rituale, scusa? Che io non ho cancellato i punti ferite. L'altra volta dormiamo. Cioè, i miei non ho perso nulla, ma voi due le lame vi avevano colpito, quindi avevate meno. No, dormiamo. Va bene, dormite. Mentre dormite. Contro la volontà del paladino, sottolineiamo. Vabbè, il cadavere non è che si sposta, è morto ormai. Cacca, noi siamo. Io ho un'altra stanza. Io ho un'altra stanza, ovviamente, da loro, no? Se volete risparmiare, potete. Tu puoi stare nella stalla, no, scusa. Senso, io ero già lì. Però siete arrivati oggi, non puoi stare nella stalla tu. Ah, ok. Va bene. Da bravo druido. Nella stalla. La notte. Con gli animali. Quindi non andate a seppellire. Ti darò nella tua mattina. Con l'altro. Col giorno le pire vengono meglio. Se no sarei già arrivato. Ehi, rega, un giazzo indegno. Quanti c'hai i Bertinelli? Il cappello al contrario. Sì. La notte venite incuriositi da un bagliore verde che vedete dalle inferriate delle finestre. Io voglio fare un long rest. Sì, sì, va. Ah, ok. Anche se l'accio del tempo. Non devi per forza essere addormentato tutta okay. L'ora. Hai un diritto di fare. Importante che non fai cose scioccanti. Uno. Uso la passiva. Persone passiva. Guardando il soffitto quando vedo comunque fuori. Comunque l'hai appoggiato, fatto bene. Questo. Devi provare questo. Quando scocca la mezzanotte. Vedete questo bagliore verde nella direzione del cimitero. Dal cimitero si alzano centinaia di spiriti che cominciano a marciare lungo la strada verso il castello di Ravenloft. Che non è la casa di prima, no? Il castello è il castello del conte che riesco ad ammazzare gli spiriti. E voi siete mai stati? No, prego. Anzi, no, non è saggio. Però lo farei. Riesco ad ammazzare gli spiriti. Saranno passo due fai? No, perché dopo ti ci sono capo della cosa. L'hai detto a immagini tutti. Di l'hai detto a tutti. Donne imbiancate che portano con sé delle grandi spade. Uomini. Ma sembrano un po' tipo i morti del Signore degli Anelli, tipo. Più o meno. Ma passano vicino a. Vanno verso il castello che è sulla. Ma il cimitero è lontano. Cioè il cimitero è al limitare del villaggio. Il castello è. Non devono passare attraverso. E vedete alcuni nani con delle asce sbarruccicose. E dei maghi vestiti con. Sembra il Gangala dei morti. Ma degli spiriti di maghi, gli spiriti. Sì. E con lunghe barbe. Vedete che sono veramente loro fortunati. Vanno a fare la festa al castello. Sti stronzi. Salutiamo Alini che ci guarda. E quindi sempre di più escono da questo cimitero e marciano verso il castello. E il castello è quello di Strad. Sì. Quindi la Strad porta al castello di Strad. Esatto. No. Ne riconoscete uno? No, mettiamo una roba più. Ah, lo spirito di Sceo! C'è lo spirito di Sceo! Padre! Regna! Sono gli spiriti degli avventurieri. E ci possiamo parlare? Non so, sono lontani. Ah. Centinaia di metri da voi. So, in effetti è molto difficile che voi riusciate a vedere esattamente quello, però mi piaceva farlo sapere. Sarà lui. Beh, vediamo uno sfigato lì che fa sempre scelte se sbagliate. Fa arma sbrillucicosa. Che si nasconde dietro lo stipite di un muro. Napoli se ne va. Abbiamo pareggiato. Bene. E per il resto è riuscita a riposare finalmente una notte. Ah. Vai, facciamo questo rituale. La mattina dopo quindi vi viene oltre a prendere i soliti rituali Ismark Io faccio un sacco di... Mancatone, come se ne sia soldi, cose, costi vari. I soldi sono quelli che ti dà il background, mi sembra. Questi. 5 milioni di dollari, pare. Ah no, sì, 5 mila. Sì, 5 mila. Ma questo per no. Secondo me no, secondo me il ladro ne ha 4.600. Ah, il background inteso come il background è l'altro che non ti dà niente. È che Drudo nelle foreste, cioè. Giusto, l'outing non ti dà niente. Fattura. No, era 35 monete d'oro, ma con quelle ci prendi il monster. Esatto, quindi non ti dà niente. Ma mi sa che ne ho 15 da Drudo. Quindi abbiamo 0. Mila. Supponiamo che abbiate quelle con cui avete pagato la locanda. Quindi ne è zero. Quindi non abbiamo niente. A meno che non cominciamo una moneta d'argento appena rubata. No, errore. Io non ho ancora pagato la locanda. Sì, hai ragione, è plausibile che la cosa abbia pagato per voi. Quindi abbiamo quello, è zero. Ah, ok, abbiamo zero. Non siete in debito. Vabbè. Che avventure ci siamo. Uscite la mattina e vi incamminate per avventurieri, siamo avventurosi. Ma perché, scusa, non ho capito però una cosa, non mi ricordo, perché il prete non voleva fare il rito? Perché non avevo voglia. Si rifiutava. Il problema principale è che nessuno del villaggio vi ha detto vuole portare la bara fuori da avvicinarsi alla casa del borgomastro e tantomeno portare la sua bara al cimitero. Ma perché si è messo contro strada? No. E vi racconta che da lungo tempo a questa parte, quasi ogni notte, fuori da casa loro, si riunivano queste creature oscure, notturne, che cercavano di entrare, lasciavano graffi e lacerazioni alle pareti e alle porte e li tormentavano in continuazione. Suo padre, non ha retto allo stress, ha avuto un attacco di cuore e da quel momento gli attacchi sono cessati. Attacchi di cuore? Ma cosa c'è stato? Beh, anche è stato l'ultimo. A casa loro ogni notte veniva presa d'assalto da delle creature oscure. Potevano cambiare casa. Quindi la gente ha paura di avvicinarsi sia alla casa sia al corpo. Per fortuna ci siamo noi abbastanza per poter portare. E quando è che c'è stato? La portiamo la barra. Fino a 3 giorni fa, quando il suo lui padre non ha retto più e ha avuto un attacco di cuore. E quattro di scena. Mentre vi incamminate lungo le strade, continuate a sentire il pianto venire da quella casa che vi dice. Ma quella casa sulla strada. Tutto copio, sì. Devo guardare. No, perché se no mi faccio una piccola deviazione. Se no ricomincio col tram tram della volta scorsa. No, si sente. Oh. Se vedete questa vecchietta che porta con sé una piccola cestella di legno e che cammina un po' gobba e un po' claudicante di casa in casa bussando e offrendo qualcosa a... Come? Qualcosa? Ah, no. E a questo nasone adunco gli manca, le mancano molti denti. Vabbè. E e sta sì, spingendo questo carretto con la bara, no, coperto da un telo nella nebbia. Non lo scopre mai. Cosa porti, vecchia? Ti guarda la mattina, c'è il diversamente sole, giovane. Il sole non c'è mai. Okay. C'è sempre un po' di rega, mi sembra di stare alla bassa. Padre. Oggi le previsioni super barovia. Ti trasporta nel tuo carro. Lei è lontana quando un po' di nebbia. Cosa trasporti nel tuo carro? Si spaventa sentendoti urlare e vedi che fa per cambiare strada. Ne gira dietro un angolo. Ma siamo insieme adesso, non ho capito. Sì, siete usciti e state andando verso la casa del borgomastro. Che gente in ospitale, sto buco di posto. Beh, magari possiamo inseguirla e vedere che cos'ha. Magari non è una vecchia, magari una. Stiamo portando la tomba. Dovete ancora andare a prenderla la barra. Ma da solo io tipo con noi. Sì, siete colpiti. Sì, vabbè, tipo è un falso rito, dai. Minore Non era il minore, quindi minore. Chi era la, la chi è la strega? Stavi dicendo strega? Chi è la strega? Chi è la strega? Si chiama Morgante. Ok, va bene, non è la strega, ok. Nulla di buono può succedere quando c'è l'anno in paraggio. E cosa trasporta? Che è tutto qua? Il Morgante. E cosa trasporta? Il figlio. Non lo so e francamente non ci tengo. E perché bussa di casa in casa? Beh, sembra che offra dei dolcetti. Perché ne avete già bruciata sul rogo? Ma non nessuno ha il coraggio di bruciarla, lo faremo di contraddirla, figuriamoci di... Beh, non la devi contraddire, sarebbe signora Morganta, figuriamoci di assaltarla, chissà quale malefatta è capace. Sì, Giulio, no, no, poi mi hai detto che Giulio lo interpreta Giulio, è Giulio, ma che ne sai che è una strega? È una vecchia. Si chiama Morganta, è certo, ok. È una vecchia strega. Vabbè, lasciamo il passo. Siamo nel Medioevo. Le mie sono domande legittime. Abbiamo un rito da ufficiare. Cos'è questa negatività? Anche noi abbiamo un rito. Lo so. Perché magari è tipo una strega morte. È vero? Boh, no, io... Magari è Dio delle streghe bruciate. Dio. Magari è Dio quello Gesù Cristo e coso, quindi lei brucia la strega. No, un Dio della giustizia. Oh. O anche Allah. Dovrebbe bruciare poi anche i neri, gli omosessuali, i comunisti. Cioè, ne avrebbe detto... No, puoi anche inventarti, non so. In D&D quanti ne può trovare? Beh, dai, c'è un po' sicuramente il druido viene a fare la pira per primo. Sì. Beh, il druido può servire a fare la pira. Vabbè, ma qui quindi... muore per ultimo. Cosa fate? Facciamo il rito, prendiamo la bara e andiamo dove qual è, come voleva fare il rito il allora giallo? La salma è alla casa del borgomastro. Qual erano i desideri del borgomastro per il rito? Essere sepolto nella cimitero della chiesa. Ma il cimitero, però dopo gli spiriti escono tutti e vanno e vagano. Fa lo stesso? Quegli spiriti che avete visto, non, diciamo che vedendo lui potete intuire che è per il grande numero di questa fiumana verde, non sono gli spiriti di quelli sepolti lì, ma gli spiriti degli avventurieri che sono morti nel tentativo di sconfiggere Scar. Perché avevo capito, dal cimitero si alzava. Sì, partono dal cimitero. Ma cavolo, assolutamente... l'abbiamo bruciato. Vabbè. Quindi? Però lo avevano liberato. Però tu mi hai detto che non era liberato. Prete, certo, officia. Vai. Io faccio quella cosa lì. Quindi faccio io. Chierico sta. Beh, Chierico è. Si è perso. Vabbè. Io non vi do una mano a portare la bara. No, cosa dobbiamo fare? Ho bisogno che allora. quattro portate la bara. Anzi, no, uno sarà Ismark. Ismark porterà la bara, okay. Ha bisogno di te. Secondo me dovrebbe farlo la sorella. Ma che cazzo si chiama? Irina. Cioè, oltre a Ismark c'è qualcun altro? Irina la vedo in forza, secondo me la bara la regge. Adesso, se mi date un secondo ve lo descrivo. Però non descriverci gli esterni della casa. Il nostro goulash mi sembra abbastanza gli esterni forte. Della casa sono estremamente rovinati e pieni di graffi. E ma un'intonacatura alla casa è stata completamente graffiata, divelta da questi segni di unghiate di creature non umane. E ci sono dei cancelli di ferro piegati e sradicati dal però non sono mai entrati altrimenti loro non sarebbero lui non sarebbe qua a parlare. C'è un cretino. La parte sinistra del cancello è appoggiata a di lato, mentre la parte destra viene mossa dal vento. E va, si apre così ridere. E continuamente appunto sbattendo e cigolando. E ci sono un sacco ovviamente di erbacce che soffocano il terreno intorno alla casa e a momenti anche la casa stessa. E, c'è un sentiero che è stato scavato appunto in mezzo a queste erbacce per permettere il passaggio. Ci sono dei grossi segni neri che vi indicano che ci sono stati dei tentativi di dare fuoco alla casa. E non c'è più un vetro integro in nessuna finestra. Tutte le finestre. E allora come hanno fatto a non riuscire ad entrare? Tutte le finestre sono sbarrate con delle. Quindi in teoria tutte le notti avevano degli attacchi. Finché quasi il padre non è morto. Ma parlando di cose serie, Irina dov'è? Irina, appunto. Toc toc. Ah. Vado io mentre voi portate la bara. Toc toc. Chi è? Sono Race Sventura. Non c'è nessuno, andate via. Race Ventura. Vengo per io non ho detto che porto la bara, anzi ho detto secondo me dovrei portare l'Irina, quindi sono lì qui a prendere il Irina. Sono venuti qua a prendere la bara, ma non c'è Ismar con noi. Sì, Sventura. Infatti dice Irina siamo noi. No, Race Ventura, questo è Rat. No, non lo faccio. È un amico, credo. E vedete che la porta si amici. E chi c'è dentro? Dentro. Mellon. C'è cioè, Irina Koliana. Irina? Koljanovic. Si chiamano uguale. Non è che. Ah, però è armata. È armata. Qui sì. Però quindi estrae la spada verso di me. La rubo. Iniziativa. Non provo più. Però sì, effettivamente sa sicuramente difendersi dopo che sono sotto attacco da. Tipo diverso tempo. Buongiorno signora, siamo qui per dare degna sepoltura. Ma è un buongiorno. Sono felice che siano finiti gli attacchi di cuore per suo padre. Un po' di rispetto. No. E come vi sente queste parole, quelle del paladino ovviamente, vi rompe il pianto altri di ignora. Insomma di consolazione. Dopo tanto. Non piangere, è stato tiro fuori dal taschino. Tiro fuori dal taschino il fazzolettino. Lo prende e filo di cera. Puoi usarlo, esatto, come cera per i baffi. È quello che gli ho detto. E il fratello cerca di consolarla, sebbene la cosa non sia molto difficile. Praticamente sono entrambi sull'orlo di una crisi di nervi. Gli ha disposto un po' il labbro. Qual era la disposizione quindi di vostro padre? Un rito semplice? Vi preghiamo sì, di portarla alla chiesa dove Donovic vi istruirà su come seppellirlo. La paura conduce all'ira. L'ira conduce all'odio. Cosa c'è? Donovic. Come scusa? Il prete. Prete che non okay. Donovic? Oh. Scusa. Domanda però pertinente. Il prete non poteva lasciare la chiesa. Vi spiegherà lui perché. Ah, quindi lui lo officia lui, solo che glielo dobbiamo portare. Non c'era nessuno che volesse entrare in questa casa. Ah, il prete semplicemente non poteva uscire dalla chiesa. No, e si è anche rifiutato di svolgere il. No, ha detto che lo fa. Però è ufficiale. No, lui ha detto che non trovava nessuno disposto a portare a entrare in questa casa e a portare la bara fino al cimitero. Ah, okay. Potevamo portare fuori il prete noi. Sì, andiamo a prendere il prete, che è più leggero della bara. Ragazzi, per piacere. Dai. Irina l'accompagno io mentre i miei validi amici porteranno la bara. Appunto, nel pianto vi dice che. Cazzo vuoi? Sono io nelle, il bomba cuori. Ma notte, cioè io ammazzo la gente. Notte dopo notte, per settimane, dei lupi e altre terribili creature hanno attaccato la casa di notte. Oh no, faccio tipo la. Ma perché la casa non è bruciata? Ma non è questo il gioco? Certo, non mi soddisfa questa risposta. Vai, prendiamo la barra. È ignifuga, va bene. Giulio ti faccio leggere la cuccia. Ovviamente mi passi il diario. Il cuore del borgomastro non è riuscito a sopportare i costanti assalti. E casa infestata in ignifuga. Tre giorni fa. Ma tu in realtà leggi? Tu le leggi all work and ma no io play, comunque il mio gesto è comunque quello. Mi dice che nessuno nel villaggio è stato coraggioso abbastanza da aiutare Ismark e Irina. Prendere il loro padre Koljan al cimitero per un vero aveva un nome cuore. Irina. No, il padre Koljan. Koljan Indirovic. Koljanovic. No, loro sono Koglianovici, figli. Ah, ok. Come il sonno islandese. Perché loro sono Koglianovici e lui era indiano. Perché lui era Koglian, quindi i suoi figli sono Koglianovici. Ah, sì, quella cosa. Vabbè, li ha educati da un padre Koglian, ma sono i figli Koglianovici. Li ha educati lui. Quindi l'altro sarà Ismarkovic. Ismarkovic. Ismark fa un figlio. Se non muore... Immagina che aveva due figli Koglianovici, se ne c'era il terzo. Cazzoli. Bravo, Kat. Vabbè, portiamo sta cazzo. Chiede di portare il, per favore. Il, ok, il prima il di toccare la barra. La strada è in discesa e in salita. Verso la. In piano. No, prima di toccare la barra, fermo tutto. Mettiamo le ruote. Così. Deve essere il rituale questo. No, perché io ho i miei tic. No, no, per, non, per non prestategli per... troppa attenzione. Ora siamo pronti, andiamo. Ora è sicuro. La bara è circondata da un sacco di fiori e di incensi profumati. Sono allergico. Non puoi dare fuoco a questi fiori. Sono allergico. Ah, ok. Vai, per mascherare l'odore di morto. Marcio. Ma da quant'è che è morto? 3 giorni. Quindi Madonna. C'è molto adesso, incenso e molti fiori. Sta frullato. Bravo, bravo, bravo. Freezer però. Pensaci tu, col tuo più 4 è giusto. Vabbè, la porterà due figli e due di noi. Non so, forse Irina no, però almeno il figlio immagino no, voglia portarlo. Ma quante persone ci vogliono portare una cazzo in mare? 4. No, dico, penso che il figlio voglia avere l'onore di portarla. Più che altro se la porti tu e lui, tipo la bara è messa così. Beh, 3. No. Sono due nani. Sono due nani, appunto. Vabbè, basta che li metti alla stessa altezza e basta. Vabbè, la porta in verticale. La porta che no, due. Però il figlio vorrà. No, io 10 di forza. Rega, la portiamo. Vabbè, io sulla spalla mentre l'umano no, no. No. La porto scoglionato. Non avevamo dubbi. Sopra una leggera salita. Perché sto facendo il favore a un morto, non ne ha bisogno. Alle pendici della base di pietra che supporta il castello Ravenloft. Vedete questo edificio grigio mi ha fatto di legno e di pietra. Poi in realtà adesso che ci penso, cioè, se chiesa. Voi lo prendete a mano, basta che i nani si mettono sotto con la testa. No, io non l'avevo pensato. Praticamente pareggiato. Se noi la mettiamo sulla spalla, loro la prendono. Anche questa chiesa ha palesemente sopportato l'assalto di creature. E se vedete no, che tutti così, c'è un lato che è tutto rovinato e decadente. C'è una campanile che si innalza. Il Vaticano non è più quello di una volta. Nel retro. E vedete delle luci che brillano dai buchi del tetto. E, che bella chiesa. Padre, eccoci. Ma ve la fanno pagare qui l'IMU? Sono tutte le tasse del conto. Io chiedo quando vi avvicinate alla chiesa, ci sono notate che le pesanti porte di legno sono coperte di graffi e di segni di zanne e rovinate da delle bruciature. Sembra che avete un problema di lupi qui. Oh, comunque questi piromani non sono proprio in grado, però queste porte sono tutte... Oh, salutiamo Edoardo Saladini che si sta guardando. Pazzesco. E padre, i tuoi figli sono qui, portano il tuo sventurato figlio per dargli sepoltura. Degna sepoltura. Brigante di paglia, bevono paglia. Gli uomini dei sassi, mi hanno rubato i sassi. Siete davanti a portone della chiesa. Chiamo il prete. Il telefono. No, ho appena detto, padre, i tuoi figli sono qua, portano il tuo sventurato figlio per essere sepolto, degna sepoltura. Dovresti fare tu. Non si sente, non si sente niente. Apri le porte, apri le porte della tua casa. Chi se ne frega, è comunque un rito. Vedo il lupo e comincia a graffiare la porta. Sono appena apre nano. No, aspetta, no, era così, era così. Ah, ma strano, mi pare di essere già stato qua qualche volta. Tipo sera prima. Rosicchia. Verità è cosa di fuoco e lui che lancia, tipo. Ma è stato tipo, sono creature terribili che grazie alle nostre porte. Terribili creature. Non c'è nessuna risposta. Apri la porta. Coniglio, alza la voce. E chi è di voi che non sta portando la barra? Io vado a vedere se c'è qualcosa di valore nelle casse. No. Scusate, ma casse delle offerte, altare, casse. Ma è chiusa la porta? No, sì. Vabbè, uso la barra chiusa, nel senso non vediamo l'interno. Cioè poi la apriamo. Ah, non siamo ancora entrati. No. La chiudo e la faccio saltare. Aprite la porta. Salgo i gradini a 3 a 3. Di legno molto pesante. Sì. E vi trovate di fronte l'entrata della chiesa. Che ha questa forma. Dungeon. Messa bene. Vabbè. Piazziamo la barra sull'altare. Allora. Congelando in questa chiesa ci sono tre nani nella che hall. Tamburi. Le porte si aprono e vi mostrano. Cioè, si aprono, le apriamo. Le aprite. Uno deve morire. No, è già morto. Si aprono per rivelarvi. Uno deve morire. Un corridoio largo 10 piedi e lungo 20. Oh, però sono i metri. Cominciamo a fare queste calcate dei piedi. Degli altri, cioè, c'è nessuno. La stanza non ha luci. Ma siamo, non è il giorno, che c'è la solita. Sì, dentro non ci sono luci accese. Isberg, dov'è il palo? Light sullo scudo, sui suoi pantaloni. Sul tuo stivale. No, è la mia spada. Ci sono 4 porte adiacenti a questo corridoio. Porte tra salire. È vero, io ho ancora i tentacoli. E più avanti, lancio un tentacolo. Si apre la. La chiesa, e potete vedere che c'è una cappella che è piena di detriti e sentite una voce flebile che recita delle preghiere. Maschile. Ah, ma c'è il prete. Sì. All'improvviso, coniglio, alza la voce. La preghiera è interrotta da un urlo inumano che si innalza da sotto il pavimento di legno. No. Il piede, dal pavimento di legno, ma sopra dove siamo noi o dove è il prete? Dov'è il pavimento di legno che sta dal centro della chiesa. Quindi della campata principale, diciamo, sì. Più avanti. Ok. Spero che hanno trovato gli scheletri anche nel Vaticano. Può fare un relitto. Estraggo le spade. E fregandomene della bara. Che ti cade in testa. Come cazzo pensi che porti la barra sopra la testa? Sulla spalla. Boh. Cioè, no, fai il lento avanti. Noi altri teniamo la barra e la vogliamo appoggiare sull'altare, si può. Quindi avanzate. No. Cioè, no, noi siamo prima. No, io tra no. Noi e l'altare ci sono sentiti. Cioè, lui ha quanto capito non vuole toccare la barra. L'altro, no, io non è che non vuole toccare la barra. No, vuole giocare ad altro. L'altro ha deciso di lasciarla. No, io la prendo che non ce la faccio alzare. Tra noi e l'altare. Beh, l'ha fatto alzare con lui in umano. Quindi leggermente meno. Sono un sedicenne di merda. In umano tra noi e l'altare. Barra che sono 200 kg. Ma dove cazzo lo mettiamo? Dipende di che legno è. Andiamo a vedere cosa è successo. Secondo me. Ho lasciato la barra perché è stato sto urlo, sguerno le spade. Ho capito, cioè siamo tutti lì con la barra. Adesso siete con la barra, sì. Vuol dire che tu sei. Dio Eroidus. Questa è mia. Dio Cristo non è una. Tra l'altro posso chiedere. È stato pratico. Magari è un influente più curioso del giocatore. E intanto c'è qui. Allora, bestemmiare tutte le volte che nomini. Cioè, il mio personaggio non gli frega. Silenzio, ci ha fatto una buona domanda. Ma non è una domanda stupida. Il mio personaggio non gli frega niente. È un'ottima domanda. Ma che domanda è stupida. Dovreste chiederla a chi vi sa dare una chissà risposta. Chissà che cosa, quali dei ci sono qui. Quali di venerino qui. Il mio personaggio. Ma che cosa fa? È una domanda per il paladino alchierico. Abbiamo fatto, ma è rimasta a proteggere la sorella perché non può certo lasciarla sola. Quindi scusa, non viene a fare il rito Isberg? Non siamo tutti assieme, cioè al caso di funerale siamo praticamente noi stronzi, sì. Che non hanno mai visto. Esatto, siete sì. Qua a portare la okay. No, non è il funerale, vabbè, allora fa culo, vai, la appoggiamo per terra la barra. Lui. No, lo farà il prete il rito. Vai, appoggiamo la barra per terra e ci prepariamo. E io sì. Vedete la, vi dicevo, la cappella in rovina, piena di detriti. E i ci sono un sacco di si alzano. Sì. Un sacco di mobilio e le panche in frantumi che cospargono il pavimento. Ma polveroso. Si capisce più o meno che cosa le ha distrutte? No. Ci sono decine di candele, in candelabri che illuminano ogni angolo del, di questa chiesa. Ho perso della Vicky, che non riesco a leggere. La cassa di zinco, non di... Va bene. E alla fine della chiesa c'è questo altare. Anche quello con cassa dei di segni. Zinco, scusami Katta, non dimenticate che dentro al bar c'è anche la cassa di zinco. Sì. Perché? Perché altrimenti esplode. Vedi? Sì, vabbè, ma dobbiamo darle fuoco. Quindi non credo sia la cassa di buona idea. Non penso, ma non in questi penso... anni. Dobbiamo dargli fuoco poi, quindi non so, sì, è bella l'idea, grazie, però non penso che... Comunque non la sollevo perché sono pigro. Dietro a questo altare, che anche questo è segnato da delle artigliate, c'è questo prete nelle vesti da, da prete, nelle vesti da monaco. E, di vicino a lui c'è una grossa corda che è quella che suona la campana del campanile. Ma lui c'è il colorito dei ceruleo? Minchia, è brutto. Padre Donavich. Ecco il prete. È dalla bomba. Ma... Vabbè. E lui questo tra... funerale non so da fare. È tranquillo per l'urlo. È tranquillo per l'urlo. Prega più forte. Quindi l'urlo... Ah, non è... Scusami, avevo non pensato si che... Sente, non, è... non si sente, non si sente. Padre, padre. Padre? Ci caga? Sì. Si gira con il suo sguardo storto. È parecchio strabico. È normale che fedeli urli non seppelliti lì di sotto le travi di questa chiesa? Siamo qui per dare sepoltura a Colin. Al borgomastro. Al borgomastro. Al borgomastro. Iranovic. Iranovic. Se ci risponde daremo un bambino. Al padre di Coglionovic. Non si potrà divertirsi. Non è una strada. E vi si avvicina il, facendo dei segni, sarebbe il segno della croce, il corrispettivo del segno della croce. Ecco, ricchi e morti. Faccia voi, faccia voi morti. E vi ringrazio, oddio, è un segno. Finalmente qualcuno è venuto ad aiutare a quei poveri sventurati ragazzi. E mentre vi parlo, ma è sentite... sordo questo prete? Mm? È sordo? No. Non hai sentito l'urlo? tutto regolare. Cioè, un urlo da sotto la chiesa. E no, buongiorno. Cioè, in effetti. Mentre glielo dici, senti venire appunto da sotto il pavimento dove il bambino un grido di un giovane uomo che urla: padre, sto morendo di fame. Tutto bene. Gli punto la spada alla gola del prete e gli dico: che cazzo è? Il prete trema e balbetta delle cose senza senso. Ok, ti prego, Atra, abbi rispetto per il padre. Ah, gli punto anche l'altra spada allora. Sarai una fatica a fare il paladino che cade a terra e dice: ti prego, non fatemi del male. Non rispondi alle domande allora. E non mentre loro parlano, vado a cercare da dove viene quella voce, se c'è una porta o qualcosa intorno. Cosa sono gli urli che abbiamo sentito? Non fatemi del male. Fammi il perception. Bella merda. Non abbiamo un perception passivo. Non investigation. Lo uso io il perception. Cioè, quando voi cercate attivamente, esatto, lo tirate. Okay. Non investigation. No, perché per trovare una cosa ti serve perception. Per capire quello che hai trovato, che cos'è, ti serve investigation. Okay. Quanti del porco ma in una sala, chiesa? Sala trova la botola, poi tira investigation 1. Chissà cos'è questa cosa. Non so proprio cosa sia. Il clero dentro no, chiesa, non no, la trova. Ma queste voci, come dire, comunque erano delle Chierico ha detto porco il clero. Di un giovane uomo. Chierico. Che ha appena detto padre sta morendo in casa. E l'uno invece però era... è partare. Non era per nulla. Lì su quello posso creare un religio. Per capire se era una bestia di qualche tipo. No, non saprei come. Catta, mi vado dietro all'altare e ravano. E faccio come faccio perception. 9 più 15, 24. No. 14. Ci hai provato. Più 15. E io più sapevo io. Vabbè, dico, con 16 in saggezza. Padre, siamo qua per seppellire. Cosa dobbiamo fare? Non uccidetemi. Ok. Catta 14 e troppo cazzo. Vedi un sacco. Beh, ha due spade puntate alla gola. Tu che cosa dovresti? Ti prego, Ateras, abbi pietà di me. Sono le spade del cazzo. Ok, ok, ok. Gliele punto alle gambe. Dai. Vai di là, vai, guarda. Quanta roba da bruciare c'è, brucia quelle pa. Vabbè, lo faccio solo per te, gli tolgo le spade. Padre, non siamo qua per farle del male, ma per... Catto ti ha dato un 14, se non vuoi che ribalti l'altare cominciando a urlare. Dimmi cosa fa, cosa c'è. Ci sono un sacco di detriti e un sacco di candele. Ribalta l'altare. Prendo due candele. Ok. Segna due candele. Che tra l'altro di cosa un pack pieno di candele. Comunque vabbè. Ah sì, è vero, nel Monster Spazio sono delle 3000 candele. Messaggio. Ah sì? Beh, lo aggiungo. Madre. Il prete si riprende e consolato dalla presenza di una persona sana di mente. Sono sanissimo di mente, ho fatto il test. Ti ringrazio per aver portato fin qua la bara del defunto borgomastro. E vi dice: quei poveri ragazzi hanno sofferto tantissimo. È una cosa molto nobile quella che state facendo. Siamo stato svicolare. E, il minimo, padre. Il minimo. Ward c'è stato tutto. Un urlo e l'altro. L'altra vabbè, ma a quanto pare qua è tutto normale. Purtroppo siamo tutti messi alla prova, ma speriamo che questo nostro periodo di sofferenza sia sufficiente per farci apparire degni agli occhi di Santa Marcovia. Santa che? Marcovia. Vorrei che era una religion. Potresti. E Ward, chiedi da dove viene sto urlo. 13. Aspetta. È una santa di queste terre. Non è un problema di voi. Va bene. Ma come? Queste sì, no, dimmi prima le informazioni, poi ti faccio la domanda. Chiedevi prima di se fa le domande per avere informazioni. Lui sta dicendo che cosa so della Santa Marcovia. Sì, o in generale della religione. Che vedi è venerata in questa cappella. È praticamente venerano questa dea del mattino, questa divinità solare. Molto bene. E questo culto infatti è in rovina perché ovviamente non c'è mai il mattino. Esatto. Va bene. E quindi continuano a pregare sperando che un giorno il sole possa splendere. Sì, perché la traduzione è sbagliata. Sì. Dico. E su terra. E invece, padre, scusi, questi urli che sentiamo, che cosa ci rappresentano? Mi rompe in un pianto disperato. Ti dice: questo è mio figlio, possa Marcovia avere pietà della sua anima. La vostra religione permette ai preti di concupire evidentemente. Va bene, padre, tempo di officiare il rito, così che si possa dare degna sepoltura. No, ho capito, ha detto che stronzo. È il suo figlio, però sto cazzo di figlio, cioè che urla, sto esatto. morendo di fame, cioè... C'è uno stronzo che urla, sto morendo di fame, da dove viene? Scusa, appena detto che... Cosa che ha detto? Il figlio. Mio povero figlio possa Markov avere pietà della sua anima e continua a pregare. Sentite di nuovo... È morto. In che senso, esatto? Cosa vuol dire? Il mio povero piccolo Doru è stato deviato. Madonna, che cazzo di tiro è? Egli non risponde più alle parole delle persone. Sente solo la fame. Vorrei fare la fame un insight. La fame di sangue. Vorrei fare un insight, adesso tiro di merda, e per capire se il padre, cioè se ci sta con la testa o meno il padre, oppure okay. se tipo, tipo cioè, lo sta tipo legando dicendo è pazzito mio figlio. 9. Dai, faccio anche un insight. 9. Ah. Saggezza non è proprio il massimo. 14 più 2, 16. E non sta, cioè chiaramente il povero Donavich non è sicuramente a posto, perché chi non lo sarebbe in quelle condizioni, e, però suo figlio esiste effettivamente. Ma non c'è una cura per questa cosa? E io prego ogni giorno e ogni notte, ma perché come la sua anima trovi la pace. Vabbè, ma scusami, perché ha fame di che cosa esattamente? Di sangue. Ah, ok. Ah, no, perché se aveva fame e basta, cioè non era una malattia. Ma domanda, sta dicendo che sentiamo una voce che viene sotto, perduto, nel senso la, che al piano legato. Di sotto o che è una cosa eterea? No, aspetta, di sotto di letteralmente di sotto. Io devo poi tirare di merda. Allora io vado a cercare. Ogni tanto mi scivola quando sono così e posso andare di sotto. Loro l'hanno appena cercato qua dove sì, siete voi e non hanno trovato perché niente. Il padre. Il pavimento di cosa è fatto? Legno. Apro il pavimento. Prendi fuori l'ascia e cominci a. Un martello da guerra. E cominci a martellare per terra e lui ti dice: fermo, poi pazzo, che cosa fai? Voglio aiutare tuo figlio. Ti prego, non lo aiuterai certo dissacrando questo nuovo sacco. Allora indicaci la strada come sarà raggiungere. Allora chiediglielo a coglione. Va bene, coglione. Io interpreto il mio personaggio. Okay. È un coglione, okay. Personaggio. Anche padre. Officiamo questo rito, diamo questa serie di sepoltura e poi se possibile vorremmo dare un occhio a tuo figlio per vedere se possibile. Sì, vorremmo seppellire Coglionovic e invece disseppellire tuo figlio. Ma non è morto il figlio. Posso seppellire anche il figlio. Sì, esatto. Non ho parole per esprimere la mia gratitudine. Avete ragione, bisogna fare in fretta. Ogni secondo è prezioso, soprattutto per la povera Irina. Ma lei è viva. E non è manco qua. È quello il problema. Per la storia della strada. Esatto. Vabbè, non ho capito questa cosa. Fanno i party coi morti la sera e lui governa tutto il regno, cioè insomma sarà brutta la vita al castello. Bello da governare questo villaggio, pieno di non morti, non lo so, pieno di Coglionovic. Ma infatti il problema sono i vivi a quanto pare, ma scacciare non morti per vedere, però la sera tutti a festeggiare la locanda per qualche motivo. Però la sera tutti a festeggiare la locanda. Sì, la sera offro siamo vivi anche oggi. Allora, cominciate a preparare il. Come fa a sostenersi l'economia di questo posto? Funerale. Sì. Ma sapete, chiediamo dove è l'ingresso di alle sotterranee. Serio? Sì, sì. Ma che cazzo ci ho messo a fare lì se devo uscire per il bagno? Una volta. Ma vado giù da bambino allora. Nella prima stanza a destra c'è un passaggio. Stai in piedi, e che cosa vuoi fare? Scusa, preparate sto funerale. Mentre andiamo in funerale, sì. Vediamo vedere come sta il tizio giù. Dai, facciamo il suo funerale prima e poi andiamo a vedere il tizio. Dai, su, va a letto lavoro. Stai calmo. Poi posso fare una cosa alla volta. No, che cosa capito, facciamo? Ma sempre è quello che brucia. È no, quello che decidi tu. Deciderò che cosa fare. Vabbè, lo salviamo adesso. E fai prima la scena del funerale e poi quella di Arci. Esatto, per dire che avvengono contemporaneamente. Va bene. E gli ho appena detto, facciamo le cose, poi guarda il tuo figlio e arrivi tu, voglio dare al figlio, spacco tutto. No, non lo sto spaccando il figlio, lo spacco dopo. E durante il funerale, cioè, mentre sta preparando il funerale, magari c'è tu che urla. Ma poi dopo andiamo a guardare. Non è il riposo per loro. Vabbè, se io vado giù intanto, tappo la bocca, tu fai il funerale. Dai, su. Durante le preparativi del funerale, vi racconta Donovich che in realtà Irina non è la figlia naturale di Kolyan, ma Kolyan la trovò in una cesta limitare dei boschi di Svalich. Bastarda. Che cool. Al tempo non aveva alcuna memoria del passato, di chi fosse, e la adottò. E la amò come fosse. Beh, in una cesta, quanti anni avrà avuto? Cioè, tipo un infante. No, perché aveva una cesta grande. Era una bambina. Classico come... incesto. No. Era una bambina. Che puttana. Non... Inoltre incontinente informa del non c'è più la prostata, no. Di tutto quello che sa non provare neanche di tutto quello che sa delle informazioni di questa terra che posseggono i Baroviani e vi dice che appunto da secoli sono sotto il potere, il giogo di questo vampiro, il conte Strad von Zarovich, egli abita nel castello e nessuno è benvenuto nel castello. Oh, no. Tranne le anime. E, neanche usarlo. Lui ha maledetto questo posto per via di un antico noi siamo peccato. Cacciatori di anime. Che bello che sei. Di anime, non di gufi. Grande citazione. Lo sapevo che qualcuno mi avesse venuto dietro. La maledetta causa di un dimenticato peccato di dei loro antenati. Sì. Per punirli hanno subito il conte. E gli riposa nel giorno durante il giorno della sua tomba. E durante la notte gli esce e i lupi e le creature dell'oscurità sono assolutamente sotto il suo controllo. Può trasformarsi in un pipistrello. Chi in questo, lupo, scusa? In conte. Il conte Strad? Sì. Okay. In un lupo o in una nuvola di nebbia. E nella sua forma umana egli ha l'abilità di dominare le persone solo con lo sguardo. Fortunatamente un vampiro non può entrare una residenza, una casa, senza un specifico invito da parte degli occupanti. Beh, rego, già ci portiamo una casa dentro il castello, lui non può entrare. E l'acqua scorrente lo brucia come se fosse acido e la luce del sole gli causa delle ustioni. Già vinto le bottiglie d'acqua. Esatto. Una tenda. Negli anni molti stranieri sono venuti a Barovia, ma alla fine o sono morti o sono scomparsi dopo poco. E i boschi di Svalich, che sono i boschi che circondano queste terre, sono pieni di lupi mannari, e da notte i cieli sono pieni di pipistrelli affamati. Sì, ma il mio Ragnarisbat ha già mangiato. Nel cuore della valle c'è la città di Vallacchi. E il borgomastro si chiama Baron Vargas Vallakovic. E esiste anche un villaggio fortificato di nome Kretsk, all'estremo ovest della valle. È costruito intorno a una vecchia abbazia Il borgomastro si chiama Dimitri Kretskov. Vi dice anche che la vera fonte di, diciamo, sostentamento di questa terra è il vino. Chi ci sta raccontando la storia della sua vita? Chi è questo? No, è la storia della terra, il prete. Cioè, il funerale sta facendo. No, mentre state preparando il funerale, vi illustra il territorio. E per alcuni il vino è l'unica ragione per vivere in questa terra. E il vino dei Baroviani viene fatto nella. Che figa sta cosa. Gliel'ho detto, grazie. Nella vineria, come si dice in italiano. Chiamata il mago delle vigne. Cantina. Sì, la cantina chiamata il mago dei vini. Il mago di vino. Il mago di vino. Vicino a Kretsk. State attenti a girare verso le pendici del monte Baratok, perché un potente mago pazzo gira in quelle zone. È uno straniero e non è assolutamente benvenuto dal conte. E la gente di Barovia venera due entità divine, due forze divine che proteggono la terra: il signore del mattino e la madre della notte. Prima che la maledizione di Strad cadde, si riversò sulla questa terra. Mettiamo a preparare sto funerale. Il signore del mattino proteggeva le genti di Barovia con il sole che splendeva. Adesso il sole non ha più brillato ed è oscurato da centinaia d'anni, e il signore del mattino non risponde più alle preghiere. La presenza della madre notte si sente molto di più tra il tramonto e l'alba. Ah, ho intercredito come gli hack. Ma anche le preghiere notturne a lei non vengono risposte. Sai qual è il giornale che non vende in quel paese? Sole 24 ore. È credenza comune che la madre notte abbia dimenticato le genti della Barovia, abbia inviato Strade per punirla. E ogni notte ci sono degli spiriti che dal cimitero si innalzano. Abbiamo visto il pellegrinaggio. Quelli sono i nemici di Strade e sono dannati in eterno a percorrere la strada del castello. E state attenti ai vistani, che sono questi, quelli che vi ho descritto prima, queste specie di zingari, perché sono servi del malvagio Strad e sono gli unici che a cui è concesso lasciare Barovia. E soprattutto non fate mai del male a un corvo, altrimenti a un corvo? Ai corvi, altrimenti la sfortuna. Ma tu sei super naturalista? Sei super animalista? Molto bene. Certo. Come no? Allora abbiamo un chierico che se ne frega dei morti. Sì, un druido che se ne frega degli animali. Sega, esatto, delle persone. Nel senso, comunque gli animali, ma sì, ma mangiamoci. Seppelliti. No, per, cioè, ovvio che non ne ammazzo per toccare i corvi adesso. Però questa è palesemente una sfida. Io questa è palesemente una sfida. Se dicono non ci ti ricordi perché è, vuol dire che appena usciamo di noi, qualsiasi uccello che vediamo che tende al nero. Una volta che un po' di corvi al giorno li ammazzo. Una volta che avete sotterrato era un bambino, era vestito di nero. Donavich vi consiglia di portare Irina in un posto sicuro e il più possibile lontano dal castello. Consiglio di portarlo nel suggerisce... delle chiese, mi sembra che sia in un posto sicuro. O forse no, Quindi vi suggerisce di portarlo all'abbazia di Santa Markovia a Kretsk. Ma è un'abbazia? Ma lei va spostata ora per... che è maledetta? No, perché per farla sfuggire è Strand che cosa vuole fare? Ha deciso di prenderla come sua consorte. Ok. Beh, ma magari se avesse ancora bastarda non dovrebbe. Non si sa la sua vera origine, né Ora, il motivo succhiare. Per cui Strad la vuole, ma una Strad volta vuole che succhiare. È un vampiro, immagino. Una volta che Strad vuole qualcosa, vorrà, nulla e cioè, nessuno. Detto che è un vampiro, noi sappiamo che è un vampiro. Vado là, faccio uno scazzo. Tutto ciò che cerca di frapporsi tra Strad e la sua preda viene sempre spazzato via in maniera. Era capricciante, vi consiglio di portarla o all'abbazia di Santa Marcovia. Beh, non è che ci stai proprio invogliando ad aiutarti, però, cioè, nel senso. Anche se sto culto sembra un po'. Cioè, tutti quelli che si mettono contro Strad muoiono male. Appunto, ci stai chiedendo di metterci contro Strad. No, quello che si fa pone tra Strad e la sua perenza. Se noi. Quindi voi, appunto, per evitare di trovarvi in mezzo. Vabbè, ma è tutta terra di Strad, quindi. Ma lui crede che portandola più lontano fine. Almeno dal suo cortile di casa possiate salvarlo. Oppure la città fortificata di Vallacchi. E vi racconta della sorte del figlio. Poco più di un anno fa, l'allora ventenne Doru ha seguito altri suoi concittadini in una rivolta contro il castello. E sono stati convinti da un mago in una tunica nera che venne da una terra lontana, Barovia, di ribellarsi e estrarre le armi. Non è lo stesso mago che fa il mago pazzo da qualche altra parte? Non lo so, non si sa. Diciamo di fare qualcosa il 21? Io. Si dice che il mago morì per mano di Strad. E dice che? Il mago morì per mano di Strad e anche Doru. Ma ritornò purtroppo a me venerdì come sua progenie vampirica. E sono riuscito a intrappolarlo nelle sotterranee della chiesa fino ad oggi. E prego perché. Ok, c'è una progenie vampirica nei sotterranei della chiesa. Risparmi la sua povera anima. Ah, è bambino? Il suo figlio? Sì, non è un figlio, cioè non è un bambino. Di questa cosa? Ha 20 anni, cioè quando è morto aveva 20 anni. È stato trasformato. Io prego giorno e notte sperando che gli dei mi dicano come salvarlo. Gli dei sono arrivati. No, quello è la campagna. È un altro personaggio. Perché lo portiamo noi fuori alla luce. So che bisogna lavarlo alla luce. Lavarlo alla luce e metterlo in una casa. Lavarlo alla luce in una casa. Vi prego, non fategli del male. È un bravo bambino. Sì, chi sono? Non vampiri. Non vuole mangiare il personaggio. Con cosa lo tieni in vita? No, non si è nutrito da allora. Non rifiuta qualsiasi tipo di cibo. E ma lui è morto mentre io lo chiede. Qualsiasi, no? Vabbè, immagino che voglia il sangue come ogni vampiro. Ma che puoi provare anche a dargli il sangue agli animali, eh? Hai visto Twilight? È un po' meno buono, ma puoi provarci. Forse sarebbe meglio mettere fine alla sua sofferenza. No, vi prego, non uccidete. E alla tua sofferenza. E alla mia sofferenza, soprattutto. Beh, sicuramente ci sarà una cura. O ucciderlo o curarlo. O curarlo sembra, con ucciderlo. Il nostro mago è il sagace. Vai. Non è un mago. Io sono uno studente. Io non posso essere un mago veramente. È un ladro. Vado. Sì, ma è l'incantatore del gruppo. Questo in effetti non so cosa provare verso i non morti, perché mi dai l'aiuto per i morti non provo pietà. Sì, verso i non morti. Vai, tiro con vantaggio. Sì, perché non sono fortunati come i morti. Esatto. Okay. Mi dava aiuto. Lui si è ricercato insieme, va bene. Cosa? Vabbè, se no ognuno tira il suo. No, vabbè. Io meno uno. Di religion. No, di intelligenza. Ma religion ce l'hai? Perché sei stupido come merda? Quindi sì, no, ma ho meno quindi uno, quindi ho più uno. Mi conviene che lo fa lui. Però te lo do io religion, cazzo. Che non c'è. 16 più 2, 18. La cura per vampirismo si chiama paletto di legno ancora. Oppure lì diamo fuoco. bravo, rimuovi maledizioni. No, ma al terzo livello. Al quinto. Allora, no, il tre. Ma noi abbiamo fatto due livelli. No, al quinto livello rimuovi maledizioni, ah. Ma i vampirismo non credo. Se magari no. Possiamo trovare. Pare si può risuscitare, ovviamente, dopo averlo ucciso. Beh, questo ragionamento. Cioè, lo si uccide da vampiro e lo si uccide. Ho mal di testa, non ti preoccupare. Ma lo stai meglio, vero? Grazie. Vabbè, alla fine. Cicatrice. Vabbè, io queste cose non le so. Quindi sto zitto. Sapete allora, che una soluzione è quella, altre? Buon padre, non conoscete. Noi possiamo dargli una mano per il primo passaggio. Per la risurrezione, poi per resuscitarlo basta avere un pezzo dipende. Di lui sostanzialmente, no? Sì. Dipende da quale tutta l'avventura, l'altra che lui c'ha due pezzi di persone. Non lo so, lui mi stava simpatico. Ma giuro, l'avevi appena ucciso. Un pezzo. Quel pezzo di lui con resurrezione. Con quella di livello più alto sì, basta un pezzo, se no serve il corpo intero. Ok, serve il corpo intero. Se seppelliamo, se mai servirà, se mai avremo voglia, lo riusciamo, ma non possiamo ammazzarlo e basta. Beh, ce l'ho, si fa le cose per gradi. Cioè, se... Caccia manuale. No, aspetta. E dallo scheletro si potrebbe risuscitare. Scontro. Non mi ricordo cosa dice incantesimo. Scontro. Ecco qua. No, ce li ho, scusami, il prete non è un credo. Ti sta bene questo motto. La tua testa? Sì. Però sì. Il muro è vuoto, quindi è un accolito il prete, non è un credo. Scusa. Peccato esatto che non ti cade, che non ci okay. Cade in testa. Cioè, revify, che riporta in vita una creatura che è morta entro un minuto. Cosa affrontiamo? Resurrection, livello 7. Quello è quello più potente. Revify, non puoi farlo? No, Revify è livello. E allora siamo al 3. Quarto livello dell'incantesimo. Tipo. Ah, il terzo livello. Dell'incantesimo. Non del chierico. Cioè. Sì, buon uomo, se lei ci consiglia un posto in cui expare, noi possiamo tornare dopo un po'. Vabbè, allora ho consigliato di portare Irina alla città. Niente, non c'è cura, andiamocene, ciao. No, non possiamo capire. È quel. Cioè, nel senso, io l'avrei ammazzato adesso. Sì. Che bel paladino gentile che sei. No, perché comunque è pericoloso. Però se adesso mi lo dite tiene incatenato. Che... Però se mi dite che il corpo ci vuole intero, dopo può passare molto tempo, quindi potrebbe non funzionare. No, con l'ultima resurrezione no. Sì, quella è difficile, facciamo quella base. A correre di file lo devi fare entro un minuto che è morto. Allora, visto che tu non lo sai, direi che o no, lo uccidiamo... Sì, vabbè, che lo farà in futuro. Ah, no, quello no, però voglio... Beh, se no possiamo fare il Raise Dead. No, direi che o lo ammazziamo o lo lasciamo legato. Cioè lo ammazziamo per di guarirlo. Io l'avrei ammazzato. Esatto, per guarirlo. Anche secondo me. Ed è anche ex facile. Resurrection. Adesso vediamo. A Resurrection tu tocchi una creatura che è morta da non più di un secolo. Che non è morta di vecchiaia. Tocchi una creatura. E che non è un non morto. Perfetto. Che non è un non morto. Infatti prima lo devi uccidere. Sì, perfetto. Devi toccare una creatura però. Se la sua anima è libera e vuole, il bersaglio ritorna alla vita con tutti i suoi punti ferita. Vai. Il livello? Settimo livello. Quindi... Ovvio che non lo faremo, però nel senso di ora come ora il mio personaggio si può fare. Va bene. Allora, gli dico, ascolta padre. Ascolta. C'è un modo per riportare dietro tuo figlio, ma... Davvero? Oddio. Ci vorrà molta pazienza da parte tua. Ti prometto conosci, che... Ma io in realtà non potrò farlo, forse lui lo potrà fare. Io sì, è vero. Ti prometto che quando avremo... Ci vuole solo un diamante da 1000 monete d'oro? Sì. Quando ti prometto... Aspetta, abbiamo già una moneta d'argento. L'inizio non è buono. Abbiamo. Ti prometto che quando avremo le capacità torneremo indietro per portarlo indietro. Potresti darci... Ora però, per prima cosa, bisogna mettere fine alla sua sofferenza per il momento. Perché ora come ora vedi che non è più tuo figlio di fatto. Ma solo un pericolo per te. Al nono livello c'è True Resurrection. Persuasion. 16. Bene. Lui ovviamente rompe in un pianto disperato, ma le tue parole lo riescono a consolare. E quindi dopo un po' di rotolare per terra, stracciandoci le vesti, padre, un po' di contegno, gli dice: fate quello che deve essere fatto. Sì, basta che ci sia un pezzo del corpo, perché dice la resurrection il settimo livello dice che rimpiazza parti del corpo perse, quindi basta. La mia domanda è: come fate a saperlo voi? Io non lo so. Ah, però... no, ma manco loro. Come lo? Mi ha detto 18, mi ha detto che so. Sa che resurrezione non so se sta l'incantesimo. La cura, esatto. Si può curare questa cosa. Ok, però non sa che devo tenere un pezzo per resuscitarlo tra qualche livello. Di base, però, ovviamente non si prende un torneo. Esatto, però lo seppellirà. Immagino il film. Che problema c'è? Morto. Lo seppelliamo lui. Abbiamo seppellito. Sì, però, cioè, nel senso. Oronzovic. No, okay, vabbè, ci sta che un chierico, un paladino sappiano che il miracolo di resurrezione esiste. Esiste, ma non che lui personalmente lo farà un giorno. Questa è una cosa che dice lui. Magari quando ne sarà capace. È come dire, non so, vado, cioè sto imparando a suonare la chitarra e poi vedo Jimi Hendrix e un giorno lo farò anch'io. Non lo so, non credo. No, però forse. Io so di certo. È per convincerlo che intanto lo ammazziamo. Sì, no, il discorso è va ucciso ora. Si può fare così quando, se avremo la possibilità, io torno indietro. Adesso lo dice, come se la dice quando sono in indietro. Io la prossima cosa, è ovvio, sì. Però no, ma tu, quello che dico io è che tu non sai se mai potrai farlo. Ah, no, certo, ma io... Tu sai che i più grandi paladini, i più grandi chierici lo sanno fare, ma... Allora, se io cercherò qualcuno che lo sa fare, però ora come ora so che comunque bisogna ammazzarlo e... il mio discorso è questo, cioè non è che tu sai ci vuole un pezzo, mille metri. Ma infatti io voglio semplicemente no, questo lo dicevo io, sofferenze, se mai avremo le possibilità tornare e farlo tornare al futuro anteriore. Comunque volevo che fosse ucciso adesso perché sostanzialmente è un pericolo per la comunità. Sì. Quindi... Però sono sincero nel dire che non può girare in mezzo alla strada così, ha ucciso. Vai. L'entrata è nella prima stanza a destra. Vai, entriamo. Entrata al sotterraneo. Mentre loro entrano, io mi attardo un attimo a scrivere. C'è una. Ehi, scriba, ci serve anche tu. Una pesante botola per terra, chiusa da un grosso lucchetto con delle catene di ferro. È incatenato il tizio? Questa stanza è vuota, c'è questa botola incatenata. Ok, chiediamo. Il figlio l'ha incatenato o è lì libero? Non avrebbe senso incatenare la porta. Vaga nei sotterranei senza pace. Io avrei incatenato tutto. Tu avresti dato fuoco. Ok, mentre la chiave lui. Era un po' pericoloso. La chiave da tanto tempo. No, non può. Va bene. Puoi aprirla il ladro. No, sta scrivendo. Spadone. No, arrivo subito, un secondo. Intanto mi avvicino al padre e dico: senta, luci. E poi per la avvicinate continuate a sentire gli urla, urla del tipo. E poi arriva il cibo. Per questo servizio poi insomma dopo ci pagheranno. Spadone per ammazzare suo figlio. Vabbè, gli facciamo. Stai chiedendo a un prete se ti paga perché gli ammazzi il figlio. Vai, spadone, catta. Pregherò per le vostre anime. Lo devo fare a te. Soprattutto la tua. Forza. Aspetta, perché cosa? Per le catene? Sì. Ma possiamo chiedergli se ha la chiave. Arrivo io. Faccio io. La lo apro. Vai, io. Ma no, tu stai corrompendo. Intanto fammi fare sto atletico. E mi ha detto che non lo fa. E vabbè, però tu intanto sei lì che corrompi e scrivi. Vuoi. Ti posso aiutare? Lo so. Sì, puoi dare vantaggio. Posso tirare con vantaggio su forza o atletico? Posso tirare atletics? Ti dà uno spintone mentre stai con la carica. È una prova di forza. Però se mi descrivi come lo fai. Cos'è il catenone? Sì. Ed è. Questa cosa praticamente blocca la botola a terra. Se vuoi ti presto il mio martello, forse più adatto a spaccare il lucchetto. In realtà sì, dovresti farlo tu, anzi. Vai. Il personaggio mi accetta. Ti do. Beh, però tu hai un +4. Vai, se no ognuno fa la sua prova. Vabbè, allora se la guarda, però lui ha un più 4. 14. 14. Lo rompi. Vai, figo, via. La botto la fuori i ladri. Faccio anch'io una prova. Voglio perquisire il prete. Scusate, non sarebbe meglio prima prepararci per lo scontro? Sì. Siamo pronti? Quasi pronti. Ah, addio. Sono due ore che ci accazzate. Cosa in catene? Non è in catene. Non è in catene. Ah, 12. È una progenie vampirica libera. Cosa consigli? Non so, così al prete sono gli incantatori che devono incantare. Lui è passivo, l'altro ruba. Ma non ci sono incantatori in questo gruppo. Gli altri non lo siamo. Ma non ci sono. Lui ha detto, ma posso indossare? Lui sta cercando di capire se si può trasformare in un orso, di trasformarsi in un orso prima o dopo. Ho capito, ma ad esempio l'altro è lì che dice, sì, ma io ho 34 non posso usare armature di metallo. Lui fa, no, uno potrebbe castare luce così ci vediamo. Ma quello non lo so fare prima. Vai, non è cosa niente del druido. Ok, ti do la spada a casta luce. Va bene, il castello. E poi secondariamente è l'incantesimo che fa lo scudo, potrebbe essere utile. Sì, ho capito, ma non lo vorrei usare adesso, visto che me ne brucio un altro. Cioè, mi brucio lo slot. Prova con passione per i giocatori che dobbiamo giocare con lui. Allora, no, è che su quello una pure in meno. Andiamo, dai. Scendete nei sotterranei. Poi non è che lo posso fare tutti. Sentite... Capito. Dall'oscurità una voce provenire e che sussurra parole del tipo: sento l'odore del vostro sangue. È arrivata la cena. Non si sente, non si sente niente. Beh, ma io gli rispondo così. E alza la voce. Il tetto del, cioè il tetto, quindi il soffitto del ci richiudiamo la botola. È fatto di argilla e di terra. E Garpes questa chiesa. Ci sono dei pilastri di legno, ormai sta marcendo, e che sorreggono il peso del soffitto. Voi conoscete delle volte gli uomini chiesa? Ci sono. Si è chiesto? Conoscono le debolezze dei vampiri, dei certo. Vampiri. Cioè, nel cuore un po' di luce delle candele del piano morto. Di sopra che passa attraverso le fratture del legno. Cosa d'argento. Facciamo e il gioco in un angolo lontano da voi si vede una figura molto scheletrica e gubbita. Tipo Gollum. Quando il prete e l'accolito hanno elencato tutte le debolezze di Strand, non c'era anche l'argento? No, non c'era l'argento. C'era No, perché per sapere se la spada d'argento ha un senso adesso, no? Che poi è una spada corta. Sì. È una spada corta d'argento. No, è vero. No, io non ce l'ho. No, lui ce l'ha. Vuoi. Se non la uso, sì. Te la do dopo. Non conosci neanche. Vabbè, stiamo insieme. Cioè, questa figura esitante è molto affamata, ma voi siete molti di più. La vediamo? Vedete questa figura in fondo a un angolo, che è ingobbita. In fondo a questo sotterraneo. Va bene, possiamo fare una mossa prima di attaccarlo? Non vogliamo farti del male. Io ti ho tipo le due spade per strada. Luminoso. Tuo padre ti ha detto, vieni qua che non ti picchi. Di capito, ma non avevo non ti do vieni qua che non ti faccio niente, non ti faccio niente. No, non aveva un bastone in mano che si siete a quanto uno vabbè poi il prete 5, se ne è accorto 8 9 10 quindi siete a 50 piedi da lui. Ma questi piedi come vi ho avvicinato ovviamente lui prova ad allontanarsi per ma non ha fame. Per tenere questa distanza. Ovviamente non può andare molto più in là se voi lo cerchiamo. È legato. Iniziativa? Prego. Cosa vuoi? 18. 3. 15. Cos'è che 2? 15. Più 8. 22. Ehi, 17 anch'io. O meno uno. 22 io però. Meno un con la destrezza. C'è. 14. Io 17. 18. 15. Dopo, se dopo le mie range, potresti avere vantaggio sui colpi. I 18. Sparo. Race, cosa fai? Il prete mi ha sgamato. Sì, ma era troppo scomodo. No, allora, allora faccio, vi raggiungo subito e scendo anche io. Arriva Race. Vi faccio light su stocco e estraggo la spada. No, vabbè, sarai lì con noi, cioè noi scendiamo. Noi stavo parlando col prete un attimo indietro, ce lo stavo perquisendo. Va bene, dopo Race. Patk. L'ho pronunciato bene. Cosa fai? Che cazzo di c'hai? Cazzo. Faccio un trucchetto e gli lancio. Perché ho presi quando c'avevo 2000 dadi per incantesimo. Fai? È un trucchetto, C'è un massacro. Un diotto di fuoco a distanza. Ma perché lo attacca? Ah, lo attacca subito così, ok. Non so, ma devi colpire o devi fare un tiro salvo? Devo colpire. Oh, okay. 13. Il tiro se l'ha detto sulla destrezza lo passo. No, deve tirare per colpire, ha detto. È tipo un sasso che però fa un diotto. E come si chiama? La tiro per incantesimo. Il trucchetto del druido, qualcosa col fuoco. È un incantesimo nuovo, così ci sta. C'è lì nei, come si chiama? Dai, me lo ricordavo, semplicemente. Incantesimo, ci metto la vita con prima loro. È produrre fiamma. Bravo. Deve fare un tiro per colpire. 13. Mm-hmm. Manchi. Vedete che salta. Prossima ti colpirà. Franco. Questa è l'avvertimento. Il fuoco che gli hai lanciato addosso lo illumina e è riuscito a scorgere il suo volto. Carino. Munk ti sta per curando perché ha visto il sasso che l'ha mancato. Dio, che paura. È da solo? Adesso arrenditi la stanza, o morirai. Altro solo lui. Arrenditi e morirai. No, dice delle strade lama parlante e noi bruceremo la tua casa. In realtà è indietro di qualche minuto. Sì. Però non so, qui da due tipo ore. Tipo 30 secondi. Una roba del genere indietro. Che vedevamo prima. Si è indietro parecchio. Tipo 30 secondi. Non è tantissimo, però qua mi dà tipo come se fosse 40 minuti in ritardo. No, no. Perché qua mi dà 2 ore e qui ci sono 2 ore e 40. Basta che quando li presentiamo diciamo benvenuti alla nostra diretta in diretta. Cioè, no. Solo un minuto non è un problema. Lui si allontana e si va ad accovacciare dietro a una colonna preparandosi a schivare eventuali attacchi. Che tristezza fa ucciderlo così. Bayern. Tocca a me. No, secondo me è in diretta. 2 ore. Praticamente tutto illuminato. 2.40. In effetti no, 2 ore dalle 10 11 12 non possono essere 2 ore e 40. Sì, infatti, perché fa 2 ore? Quando è acceso adesso mi prendo dei cambi a computer. Hai ragione, perché secondo me il detect magic qua è sprecato, cioè da solo. Hai ragione, grazie. Lo colpisci o lo aspetti? Sì. Tale dovrei riuscire a... Vabbè, faccio. Dai, vabbè, faccio lo scudo su di me. Ha detto che lei punto, sei da solo. Non è così male come penso. Scendo a fare. Che è un'azione bonus. Malico, è ancora un'azione. Sì, però faccio solo questo. Un po' costoso, ma non è così male come dicevo. Sai la matita? No. Grazie. Alla fine fa tutta una batteria paurosa. Sì. Non ci puoi fare la bagu. Non è Adene adesso, si chiama in un altro modo. Atanas. Cosa hai fatto? Atanas. No, mi sono fatto solo lo scudo. Me. Sì. A quanta distanza è? Prima era 50 piedi, adesso è andato fino in fondo. Quindi sono 10. Scusate una cosa. 13, 14, 15. Il caricamento che non ho capito se è un talento. Quindi è a 80 piedi. Ma è il giocatore? 80 piedi. Non ne ho idea, non ho capito. No, caricamento. Cazzo, è un cellulare. Buffering. No, è un buffering. Avanzo di 30. Talento. Sì. Il bug. No, è una cosa particolare che mi ha fatto avere lui, perché ho scelto come totem il montone. O hai letto male, o Charger. Ma devo usare l'azione di dash, puoi usare l'azione bonus. Scattare, giusto? Sì. Puoi usare un'azione bonus per fare un attacco in più. Oh no, avanzo, vabbè, faccio due azioni di movimento. Ah, ok, adesso okay, quindi avanzi di 60 piedi. Sì. Attacco extra. Hai anche un più 5 all'attaccare. Cioè scelgo o l'attacco extra o 5 garage. Danni. No. State o tirarla giù, però devi avere almeno 10 feet di linea retta. Cioè, perché il caricamento è esattamente 80 piedi da te. Quindi posso fare il caricamento tranquillo. Non ci arrivi, cominciare a caricarti. Comincia il buffering. Okay. Vabbè, allora niente, avanzo intanto. Basta. Quindi avanzo di 50 piedi. Esatto. Va bene. Ma voi cosa fate? Oppure puoi scegliere, o gli fai più 5 danni, oppure gli lo provi. Cioè posso fare un attacco extra, e oltre all'attacco extra posso o scegliere o spingerlo o... Ok, quindi esatto. Attacco extra. Guarda, è strano. Devi fare almeno 10 fit. Ma questo sembra forte? Beh, sta piangendo in un angolo. È una progenie vampirica. L'aspetto non è molto sano. Siamo in 6. Voi avete sicuramente il taglio del numero. Che io faccio bless. Danni. Sì. Oppure buttare giù. Su no, Giulio. Ah, spingere indietro. Sceo. Cosa mi dà bless? E bless era, te lo dico che sono io. Non so se un di 4 al roll attacco saving. Di quanto bless è solo un uso. Lo spingevo. Sbaglio, no? Sì. È un'azione, poi è contro. Cioè, è come l'altra volta che ti avevo fatto io il guidance, è la stessa cosa. Però è sull'attacco e sul save. Non conosco bene scegliere. Allora, gli altri, per cui faccio se tu su, usi l'attacco su bonus, non so gli altri fai più 5 quindi faccio su l'as, Giulio e sceo. È a 30 piedi, quindi lo devo fare a show, quindi spingerlo giù. Praticamente, allora lo puoi buttare. Aggiungi un di 4. O lo attacco con più danni o lo spingo. Adesso lo dico anche lui, però se non lo sa. Scusami. Ok, e Sceo, Laz e Giulio, voi praticamente adesso, finché non me lo potete fare anche su di per te, un minuto, sì, volendo potevo, credo. E però lo faccio su di voi, e fino a che non finisce lo spell, può aggiungere un D4 a quando attacca, e o ha il tiro salvezza. Figo, grazie. Oh, grazie allora. Te ho visto che rubi e non mi piace. Io non mi hai visto rubare mai. Rubato, anzi, ti sto te non so cosa fai. Non so cosa fai. Non mi hai visto rubare mai nella vita. E rimango. Cioè, sì, mi avvicino con lo spadone, ma. No, ma che quando lo facevo io. Vabbè, tu ti facevi sgamare, tipo tasche piene. Sì. Non mi avete mai visto. Non so cosa fate, quindi. Cioè, visto cose. Spengo la luce. Il tizio è illuminato. No, vedete nella penombra delle sono illuminato quando ho scalzato io il tiro. Tu conta che io ho una spada che mette luce. Ok, allora spengo le luci e mi nascondo. No, perché si era fatto luce anche lui. E mi muovo verso di lui. Di quanto? Più che posso, okay. 30 feet, 60. 60. 60. Ne approfitto. Se si nasconde, 30. No, è un'azione bonus. Ma io passo, ce ne sono anche le colline. Tu non dimenticavo che io ma porco di catta? No, grazie. Oh, sì, bestemmi in chiesa. No, siamo sotto. Non ho detto iddio. Salla un po' di amaro? 11. Pochissimo, grazie. Ma lui, cosa sta facendo lui? Ma lui si è messo dietro ad una colonna muovo, per schivare gli attacchi. Mi muovo in avanti e lo bersaglio. Tira con svantaggio. Perché? Ah, perché c'è la colonna. Devi versare più velocemente. Perché lui è concentrato. O dai uno spintone. Dai, è piegato. Merda. Sto cesso di cose. Ma è punto debole. L'altro qual è la città? 17 con il primo. No. Ma cosa lanci? Eh? Cosa lanci? Secondo 6. Sì, ma cosa lanci? Lazzaro, ma fammi fare anche il mio. Anche me. Era specie di dardo infuocato. Ah, ok. Devo produrre il fiamme. Guarda qual è la gittata, per favore. 50 piedi. No, è tanto. Mi sembra molto un bluff. Mi muovo di. Anche perché lui è 80 da te. Sì, mi sono mosso comunque. Non è che sono un gelato. Prego. Io ho movimenti in metri, raga. Cioè, so che è in metri. 120? No, non è quello. No, quello è l'illusione. 30. Ok. Di quanto mi muovo io? In piedi? Di 30. Perché deve proprio fisicamente lanciare, non è tipo deve lanciarsi farlo. Anche lui. Ah, no, allora non posso tirare, non c'è 30 arrivo. Piedi. No, neanche prima ci arriva. No, prima sì, prima sì. Bagar. Ho fatto scappare. Ma quindi nessuno l'ha toccato ancora. Fai due azioni di movimento. Mi avvicino anch'io, però rimango più indietro. No, sei vicino a me. Non fare la stessa allora, strada. Più avanti ci sono io, che sono solo a 20 metri di distanza. Ma è perché non so cosa vogliamo fare. Io intanto mi sono fatto lo scudo. Ucciderlo. Ucciderlo. Ma non ha attaccato lui. Non so, di solito se vuoi parlare con le cose tu. No, sono quella progenie vampirica, che non ci parlo. Salute, ragazzi. Ma grazie. Atanas. Vabbè, lo attacco perché ci arrivo. Lo attacco perché ci arrivo. Hai svantaggio, però. Perché? Perché lui un boh. Ho svantaggio anche in corpo a corpo. È concentrato a schivare gli attacchi. Ho svantaggio anche in corpo a corpo. Vabbè. Tutti gli attacchi. Hai visto? Puoi tirare il D4 in più per colpire. Forse no. Primo niente, secondo attacco. Non ricominciare con i tuoi tiri come l'altra volta. Vabbè, il secondo è comunque un 19. Colpisci. Scusa, bro. Con cosa lo colpisce? Con la spada. Prima ha fatto 2 col dado, anche col D4 non avrebbe fatto. 2-6 ha fatto. Però dipende quanto facili. Non lo spreco adesso. No, lo può tirare. Guarda che lo puoi tirare quello quando vuoi. Ma capito, ne ho uno, cioè che se faccio 2-6, cioè nel senso 11 più un D4. Ah, cioè. No, whenever. Sì, lo puoi tirare anche dopo aver tirato. Ho capito, ma 11 più un D4. No, whenever vuol dire cioè quando gli pare. Tutte le volte che vuoi. Ti sta dicendo che danni. Se anche l'avessi voluto tirare dopo, scusa, 5 danni. Mancato. Allora, quindi lo userà un prossimo tiro. Cioè, che poi era 2-6, era 2. 2 più 5, 7. Era 7 più un D4. Ma comunque è di Giulio, lo userà quando vuole Giulio. La tua spada lo colpisce. Mi piace fare cose che la chiaro. E lui ruba. È chiaro. Ma tira troppo basso, Vetz, con il primo attacco. Che causa del suo mal. Però se sei dietro una colonna ti sbatti contro la colonna. Garrosh, tu quanto ti muovi? 25. Esatto, quindi quanto c'è tra te e lui? Non lo so. 30 piedi. 30. Dai. Nano di merda. Hai delle montagne, vanno piano. Sì, vanno piano ma non lontano, eh. Vabbè, che merda, allora niente, faccio 25 piedi. No, meno, se non riesci a caricarlo. È imbarazzante. Sì. Metto una via di mezzo per caricarlo dopo. A parte che tu, visto il più 4 del 17, potrei anche muoverti di 30 piedi. A parte che se ha 30 piedi da me, ne faccio 25, quindi lui è nel quadretto a fianco a me. C'è un quadretto tra voi due? No, c'è un quadretto tra me. Ah, c'è il buco in me. Sei proprio... Tristissimo. Vabbè, faccio 2 passi e mi fermo. Distanziale, millimetro. 14, voglio Vestmaster. È uguale, si scambia lo stesso. Ti ricordo che Vets Master si è andato a fare un troll. Hai detto bene. Se la prima volta. Con Vets Master avrei. State avessi morto. Anzi, no, perché l'ultima volta sono 9. Con Vets Master 25 piedi sono 30 piedi. No, io gli ho fatto dei danni pochi. Quando c'era lui, esce. E vado lì e i piedi arrivavano in orario. Esatto, i piedi erano approssimati per eccesso. Anche se poi immagino che io non gli farò praticamente danni. Non lo so. Perché. Se ne diventi, no. Non ce l'ho, scusa. Non ha svantaggio lui. Non ha svantaggio. Sì che lo ha. Hai svantaggio. Perché questo qui è lì in un angolo impegnato a schivare i nostri attacchi, quindi ci dà svantaggio. Ok, raga, anch'io ho fatto scazzato. Sono in questo svantaggio. Sì. Vabbè, sai perché ho svantaggio. Che eri troppo lontano. No, è primo. Scherzo. Non dà svantaggio lui. È falso. 14 danni. Di che tipo? normali. Taglienti. Ah, di quel tipo lì, tagliente, squadone, sì. Normali. Come la posta di carta. Salsiccia e peperoni. Non magici come. Magari usavi la tua base. Esatto, potevi smaitarlo. Smaita, smaita. Come diceva Giulio, il colpo infligge meno danni di quanto danni dovrebbe. Quando arrivi con calma. Turno. Tocca al ladro. Passo. Vado, lo assalisco. Attacco furtivo. Ho svantaggio, vero? Finché non tocca a lui, sì. 20-20. Minchia. 20-20. La possibilità su 400. Sì. Secondo attacco. 1-1. 14. Fammi su 14. Stock sì. E spada corta. D'argento. Posso farlo, no? Sì, sì. No, non è d'argento. Ah, vero. 14-19. Ha preso con tutte e due. Quindi cosa raddoppio, scusami? Il primo. Il danno dello stocco raddoppio. Ah, anche il furtivo. Il furtivo raddoppio. Ah, sì, sì. Che cazzo di culo. Ok, non è l'incantatore, scusate, è il tank. No, è il... no, non è il tank. Sì, che fai? 26. Allora, questi ma sono i danni del ruolo. È quello leggerino che fa un sacco di danni. Tiralo due volte. Vedi, l'assassino non serve a un cazzo. Io posso dire bene, aspetta, c'è un dato di Star Wars. Vale, il trionfo quanti danni fa? Il trionfo è 6. Sono giusti, no? 3, 6, 7, 8, 9. Che merda. Beh. 10. 20. Facciamo 2. 2, 4. Sono 5, 20, 30, 36. No, 30. Cioè, aspetta, 20, 31. No, perché? 10, 20, 30. 31. 31. Sì, ha ragione. 31. 31. Ah, 31. 37. Bravo, scemo. 37 più 10. 37 più 10, 40. No, solo una aggiunge la destrezza. 37 più 5. 42. Destrezza? Ucciso. No, più 5, scusa, più 3, ho detto una cazzata. 40. 40 danni. Questo è tuo. Oh, è morto. Quindi? Beh, più 5, è 16. E poi gli faccio, com'è? Pacca. Non è ancora vivo? Sì. Che trovo? Allora gli lancio una cosa... Aspetta che gli faremo aumentare i danni. Ho svantaggio? Sì. Allora gli dico... Adesso ti manco! Ma il prossimo! 10-10. 10-10. 15. Ma tu sei trasformato? 6 danni da fuoco. 6 danni. Aspetta, da mi date un attimo giocato dove se mi ricordo una cosa? Sì. Ah no, niente, non mi serve. Scartavo. No. Ok. Quindi è così che si usa il ladro, non manca più. Io non ho fatto in tempo, non lo so. Non ho capito. Sì, dai, tocca a lui. Guarda la ferita che gli hai inferto col tuo stocco. Oh, che rimane di stucco. E quella comincia a richiudersi. Ah, la guarda generazione. E si richiude? Non del tutto, ma comincia, vedete che comincia a rigenerarsi. Oh, sì. E ti guarda molto arrabbiato e prova a darti un'artigliata. Però il fuoco non si rimarge, eh? C'è di cazzo. Magari è col fuoco che rimarge una ferita che potrebbe danni. Ti chiederò la classe armatura. 14. E ti colpisce. Aiaiai. Ti dà un'unghiata. E ti ammali. Per un totale di. Easy. Per me vado. 8 danni taglienti. E. Tiro salvezza sulla costruzione. No. No. Prova a prenderti in lotta. Beh, io tiro destrezza. Sì. Puoi tirare destrezza. Sì. Per scappare. Sì. Ah, beh, certo, l'artista della fuga sarebbe. Cosa hai fatto? No, ho tirato. 14-19. Riesci a sfuggirgli. il secondo attacco per darti un'altra unghiata. E ti manca. Prego. Dopo tocca di lui. Ed è così che si gioca al lado. Sì, i tuoi primi due dadi della storia, no, da qui a non so quanti anni devo tirare lo svantaggio. No, non ha più scritto. Okay. Voglio vedere quando dovrai mai tirare il Dead Sense. Uso. Aspetta, non sono capito. Questo è il tuo? No. Vabbè, certo. Sono uso il. Sì, lo uso un attimo. Allora, è suo, però. Tiro anch'io per colpire, uso anche il D4 in aggiunta di lui. Sto guardando il tuo primo match. Sto guardare poi di raggiungere. Ho tanti dadi da 20 diversi. Non serve, però l'ho detto che lo uso. Quindi. 19 più 5 ma vale solo una volta 24. Di 4 in più. E ti tiravo la rimolta al secondo. No, quando sì, ma vale solo una volta. Quindi devo tirare anche solo da 5 di 6 di radianti. Sono danni radianti. Radianti, sì. Vabbè, ho solo quelli. Non è parte Giulio che può fare. 1, 2, 3. Non mi era utile prima. Ah, scherzo. Non mi interessa. Lo brucio. Avevo detto che ignorava. E questo perché ha il vantaggio. Lo svantaggio, no? Sì, anche. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Dopo quello di metà poi va l'altro. E a quello dopo di me ha vantaggio colpire. Sono un po' troppi metri lì dentro. Allora, quello fuori. Vedi che la ferita che si stava rigenerando. Si ferma la rigenerazione. 20? No, 20 non lo so. 22. 22 non solo quando è 20, solo dici sotto. Che cosa gli hai fatto? L'unica spell di danno che ho, a parte il cantrip, ha detto che con i danni radianti fermo la regenerazione. Cos'è guida? Quindi hai vantaggio. Ho vantaggio. E lui non ha più. Non ha più. Non ha più. Lo posso usare una volta sola. Ricorda che hai anche il bonus. No, però è ogni short. 20 colpito. Lo recuperi. Però lo recuperi ogni short rest. E con Channel Divinity puoi usare, fare voto di ucciderlo. Sì, sì, sì, fare queste robe qua. Però in realtà tu dovresti smitarlo con lo strong. Funziona, Radiante 18 danni. Si deve regenerare. Eh sì, lo smita come uno stronzo. No, ma l'ho fatto io adesso. Quindi è fatta. No, lui ogni attacco lo fa. No, devo usare uno spell per capire. Capito quanto spell hai. Io sono radiante. A chi tocca? Bene, sta cosa. Dopo Atanas tocca Garrosh. Lo può attaccare. Posso caricarlo? Questi due che fanno male. Quindi gli faccio l'attacco e l'attacco extra con i 5 danni. Lui è a livello 11. Funziona così, ho capito bene? Perché con l'abbiamo riletto. Col caricamento scelgo se fare o un attacco extra con 5 danni in più o shield. È in bonus? Sì, sì, è bonus. I 5 danni sono nel perché attacco io con extra il solo facevo sì. Quello poi facevo con l'altro bonus del turno dopo e quindi attacco normale. Vabbè, ho due danni in più dati da lira. Adesso ho resistenza ai danni contundenti per 40 e tagliati. C'è scritto e ho vantaggio alle prove di forza. Ah, qua io porca di divinity 7, provo a usare il D4. You must then finish a short or long rest. 4-11 mancato. Vabbè, attacco extra. Sì, ha fatto l'elenco di tutte le cose che faceva e poi ha fallito. Guarda il dado. Sì, il tiro primo ho fatto due. Ho come questa impressione che non dipenda molto dal tipo di personaggio che ho. Ma chi sta? Non so che cosa fa. Possiamo giocare a carte, è un gioco di certo, non l'hai fatto uno, prima ti ho mandato, non ci arrivavi contro questa creatura per un minuto. Questo fa 2-20, è il giocatore più scravo in combattimento. Ora che tu arrivi a colpire. Adesso non ce l'ha più perché lui è attaccato nel suo sì, così. Allora. Storia della mia vita, come dicevo. La mattina. Vabbè, sto lì a beccare colpi, sperando colpisca me. Vai, allora tiro, provo a colpire. Dice, ho fatto schifo come al solito. Ho fatto un 2 e un 1. E allora è vero. Sì, sbazzato. Tu dovresti sempre entrare dopo di me. E uso il mio 19 con vantaggio sempre per fare sì. I danni in più radianti. Sì. Quindi tira. Sono... Quanta grassa armatura esce? Di che aspetto? Cazzo è possibile? È un barbaro. usa la costituzione, poi lui ha più 4. Ah, è vero, ecco perché. No, anche lo scudo. L'hai calata la costituzione? Sì, sì. Ho anche lo scudo. Che dà più 4 il suo scudo. No, 10. No, però come arma cos'è, scusa? Martello da guerra. Scusa, in effetti. A piacere, no, quelle sono usi... radianti. Eh no, lo userà una mano. Sì, esatto. Una mano due mani, con lo scudo più 4 in forza. Scusa, 2-1 ritiro. Se lo voglio usare. Devo accettare. Eh sì, sai che è il mio cosa. E quello è fatto bene. Allora, sono danni normali. Cioè, se voglio, metto lo scudo. 13 danni. E radianti, altri 14. Il paladino è Aladino. Di base la classe armatura è Virtus, no? Mm-hmm. Sì. Adesso cominciamo un po' a fare la scheda. Quel personaggio lì è forte, molto. È quello che usa la scheda armor, eh? Si può 80 danni. 11. Qua passi un po' in mezzo a tutti questi picchiaduri. Più 11 da più 1. Non mi ricordo. L'armatura più sterzo questo poveretto. Scusa, race. Com'è possibile che io così poco? Race. Io ho fatto la race, no? Sì, però ho la scheda. La destrazione non è no. Mi sono usato solo i trucchetti per race, torna. Lo riattacco. Prego. Non ho più sbagliato. Che gli stiamo facendo? Non l'avevi neanche. Ah sì, è vero, prima c'era. Sì, ha fatto doppio 20, lasciamo 15. Ha colpito. Ma no, siamo in 6. Non arrivano a 10. Non lo tiro. Ma perché? Guarda, c'è il parco. Ma porca di quella... Per farti vedi, i miei non arrivano a 10. Ma dai, ma dai. 7, 10, 13, 14, 18 e 20 e 3, 17. 2, 20. Poi disingaggio e mi sposto un po' indietro. 20, 20. Non hai il cutting action, non puoi farlo. Sì, che ah, cazzo, è vero, al 3 è del ladro. È vero, è vero, è vero. Al 3 arriva, è vero. Fanculo, assassini, non è la classe ottimizzata. Non è anche tipo figo, min max è l'assassino, è in virtù di non so, io chi no, non c'è. Sì, è uguale. Però allora, cosa che non ho sempre. È cosa che non ho il critico automatico. Okay. Però, però è una. Però ho 200 milioni di incantesimi. Quindi. Oh, però assassino in realtà avrebbe. Ma forte questo, sì. No, lui in combattimento no. Puro combattimento per DPS no. Magi. Sì, però per puro potrei danno. Fare anche Burning Hands e bruciarvi tutti, ma non lo faccio. Lui il... sarebbe molto giusto. Soffre particolarmente i danni radianti che gli hai inferto e quindi gridando spegni la luce. Dopotutto gli hai fatto di me, ti sta bene. Ah. Tu cosa hai fatto? 14. No. Mi sto trasformare per uccidere sto poveretto, cioè. Sì, in effetti è un po' accanimento. Sì, certo. Togliamo in 6. Mancato. E te è enorme comunque sto tizio. Un vampiro. Dair. Fortuna l'ammazziamo, sennò lo sta ammazzato. Ritiro quella di prima, però te l'ho la faccio fatto il padre. Uccidiamo anche il padre per prevenzione. Come quella di prima. Stai tirando per colpire. Sì. Vai, l'ho già usato prima il tuo. Puoi usarlo quando vuoi. L'ho già usato, è una carica. No, whenever! Whenever! Quando cazzo mi pare! Puoi usarlo quando vuoi, sì, ma è una carica. No, sempre. Per tutta la durata. Tutti i finché, per un minuto. Salvezza. Serio? Cioè, non lo faccio più. Devi farlo alle persone giuste. Faccio io più. Io avrei usato sempre, avrei abusato. Io ho fatto 11 e con il 4 avrei fatto. Ho capito, ma se ho io ho colpito sempre, ma l'avrei usato sempre. Non ho bisogno, ma Giulio, ti mancherebbe un punto per fare. Non io l'ho usato, ho fatto 4, ma non ho colpito lo stesso. Ok. Il tuo scusa. Non è che tu cosa facessi. Ho fatto show perché è l'unico che vedevo con un martellone. Io ho una accetta e uno scudo in mano. Sì, ma te non io ho un martello e l'altro visto che è un trallazzio non mi ispira. Ma non ho fatto niente, non mi hai mai visto fare un trallazzio. Comunque io ho uno scudo e un ascio. Hai vantaggio tu. Aspetta, devi fare allora il tiro per vedere se mantieni la concentrazione. Mi ha fatto tanti. Ah no, ti ha mancato. Vai, mancato. Oh, scusa. Non te lo faccio mai più, Giulio. Non lo vuole. Aspetta, aspetta. Dice che you can. Hai svantaggio. Puoi anche lui. No, vantaggio. Perché lui è vantaggio? Perché l'ho fatto dopo di lui che mi ha dato vantaggio. Quei fogli uso, eh. Grazie, nano delle colline. Ma io lo faccio solo a quello dopo di me. Che colpisce dopo di me. In automatico. Vedi? E qui lui. lo usi, eh? Io non lo userei per 11 per più coerenza. 5, 16. Non sputi gli altri qui mangi adesso. No, non sputa. Se mi serve lo uso, se non, se non mi serve non lo uso. E non devi piangere dal lato della tetta adesso. 11 più 6, 17 danni. Con due attacchi. Ok, vedete che comincia ad essere forse lo colpisco. Vai, Sceo, sei tu chi è. Colpisci la colonna, se no. E... mi cade addosso, fai così. Ovviamente l'attacco extra non posso più averlo perché non posso caricare. Tornare indietro e prenderla in corsa. Lo posso fare? Bazzoli, prendere un attacco di opportunità. Sì. Sì. Quindi disinganciare. Ecco un attacco di opportunità. Tanto sì, mi sembra una cazzo. Se lui carica, attacca, va. E lo vai indietro. No! Tornare indietro. Vai, Sceo, usalo come lo useresti tu. Vabbè, ha senso, tanto sono in ira, non capisco fa che senso. Cazzo lo voglio fare. Uno in ira, cioè rabbia violenta, no, torno indietro, cioè, corpo a me torno indietro, devo fare un passo indietro per colpirlo più forte. Passo sono 10, no, piedi, sono 10 piedi, sono 6, sono 3 metri, non è proprio un passo. Il personaggio che ha fatto era un barba Grunz. Vabbè, faccio un attacco normale, tanto non dai, ma perché lo togliete così? Col più 17, no, non mi serve, non ne ho bisogno. 19, no, non volevo che ti fare anche un di 8 più 5, tanto farò 1. Perché di 5? Oh, sei vero? Sei vero? Oh, più 2 dell'ira. Ah, più 2 dell'ira. Comunque è figo, il mio fa la cosa degli 1 di ritiro. Perché tu hai l'ira? Non siamo già all'euro. No! Nano delle colline, delle colline. Cazzo, sono qua! È un tratto razionale, le battute di merda. Guarda, ah, non l'avevo sentito. Da te, mezzo. Oddio. Oddio. Cazzo. Sono nano della montagna. Urbella. Ah, perché ha attivato la sua 12. Cosa da paladino. Vedi, se la prossima volta ti facevi la roba a te, a noi. Ah, no, due, no, infatti, forse non ha mai fatto senso. Niente, i melanghi del fuoco passano, mezzo. Manca. Quando colpiscono. Sì. Quindi, race. Pari attacco. Basta. 20-20. 20-14. No, sono due attacchi. Cazzo, ho fatto 20 davvero di dado. Di nuovo, guardiere. 14 di dado. Sono... no, 14 più 5 è 19. 14 di dado. Che cazzo? Mettiamo mollo quei dadi, guarda qual è il atto che sta a gallo. Ma aspetta a capire, aspetta, tiro tu. Te la risolvo. 11. È barato, è barato. Tiro altissimo. 13, no, che altro. Cioè, la metà dei dati sono 58, 31, 11, 36, è come prima, 49, 39. Guarda, ho fatto 13, 11, 19. Lo infilzi attraverso il petto. Perché è malato davvero il suo dato? E... ah, come? Lancia un urlo disumano e cade per terra. Ma che toccate sul serio, sto stronzo? Cazzi tu! Quello da dove? Scusa. Quello grigio è truccato. Ho fatto 13, 15, 19. Che guarda un po', sono no, sempre vicino. Ho fatto 8, però hai visto che ha ballato un po' sul 20, che è di fianco all'8. 11, no, 11 che è di fianco al? Niente, no, l'11 è di fianco no, al. Eri vicino. Io ho fatto 11, 13, 19 che circondano il 20. Ce l'hai sotto il 19 non circonda il 20, 19 è vicino all'1. Che cazzo? Il 20 è quello con il fallout. No, è qua, scusa, è qua ah, il 20. No, ho invertito qua il fallout. Ah, no. Allora, scusa, allora no, io quasi sempre fatto 12. 1. Vicino a 1 sono sempre andato più, me l'ho letto al contrario. Vedi, rega, solo quando serve me lo fa. No, l'ho letto al contrario. Ma adesso se lo tirassi attaccando. Ma lui lo sa. Lui lo sa. No, dove hai ragione, l'ho letto al contrario. No, no, sono sempre andato vicino non a questo. Allora, rega, non era molto forte, è stato facile rinfodero le armi. Anzi, allora, prima le pulisco un po' su di lui. Anche quello, ma ho avuto anche per anch'io questo. Pulisco il... non importa. Uscite dal sotterraneo, accolti dal pianto del donno. Non esco da lì, voglio picchiare qualcuno. Io mozzo la testa al cadavere. Ma no. Ma no, sai che in realtà... aspetta. Perché dove andava nonna? Perché... in... abbiamo finito. Dalla nonna? Forse ho leggermente, barato. In teoria se faccio un turno in cui non subisco danni e non pure ne faccio, no, l'era svanisce. No, no, se lo attacchi e lo manchi, conta. Conta. Sì, se no è fatissimo. Perché sennò non serve. Non colpisco mai, quindi c'è tutto. Ah, merda. Storia del collo. Mentre uscite guardate il castello. Ci sono delle nubi nere che... piscio sulla progenie vampirica. No, no. No, che si pensano sulla sua vetta. Non è. Non... Cioè, non gli hai dato fuoco? No, fuoco non glielo dai. Ma ha detto che gli mostra la testa. No, cosa? Non gli mozzi la testa. Non ti serve per la resurrezione. Sì, non gli devi mozzare la testa. No, già no, fatto. È importante. No, no, non è no, importante. No. No, se lo fa, prova a fermarlo, ovviamente. L'ha già fatto. È no, distratto da Instagram. L'ha già fatto. Tipo, fermati, cioè. È più sicuro? No, no, perché dobbiamo risolvere. Cioè, deve essere. La resurrezione non funziona anche con la testa tagliata. No, non lo sai, non sai niente, guerriero. È vero, però io. No, infatti, una domanda, Chierico. No, questo vampiro mi sembra un tiro. Dimmi sì o no. Già. No, adesso no, è morto, non ha compassione, questo, non gli interessa. Questo cadavere non profanarlo. Per favore, gli pianto un paletto nel cuore, un pezzo di legno che trovo. Io quello pianto. Va bene. Passività, ladro fortunato. Va bene. Non è fortunato, è molto forte in combattimento. No, no. Uscite dalla chiesa e vi accolgono delle nubi. Se ci succede, però, non ti due venti scure e svantaggio. Il rumore dei tuoni in lontananza. Imbarazzante, fare un critico sotto svantaggio. E tornate nel 20-20. Quindi ora dobbiamo portare. La come si chiama? Irina. Questo è perché l'assassino non funziona, non serve un cazzo. E anche 19 20 qui. No, non ho mai fatto le storie di Tycoon, non so se ho. Quindi ora sei contenta? C'è anche lui. Va bene, quindi torniamo su e andiamo verso Ilaria. No, Irene. No, Irina. Qua bene questa sera la faccio. Esatto. Ma lo seppelliamo lui però. Seppelliamo il prete. No, ma cosa stai facendo? Io non ti darò niente. Torneremo. No, sono truccati tutti. No, no. Cioè, solo scrivimi. Quindi sali anche livello? No. Scrivi per messaggio le carte che vi ho letto l'altra. Ho già scritto quarto. No, ok. Dai, ho già scritto quarto. 20. Ma c'è anche tu, vero? Hai già scritto quarto. In realtà non avevamo sentito inizio sessione per dopo 10. Peccato, avete perso il caso. Per salire di livello. Va bene, seppelliamo il tizio e siamo felici. Ah. Poi possiamo tornare. Ma manca poco salire di livello, ammazziamo il pane, prete. Sono ancora in giro. Si sale ai tre guardi che raggiungete. Potete uccidere tutti i preti che volete. Ma non possiamo, ha detto che possiamo. Non lo sappiamo tecnicamente. No? Noi siamo rimasti vecchio stampo. No? L'ex sta uccidendo. Giusto? I corvi. Ha detto potete uccidere. Tu famiglia, se muore, non puoi rinnegarlo. Sì. Facciamo l'esperienza così. Vai, salla. Ma dorme, è giorno. Ah beh, chi se ne frega, ex per figlio. È più facile ucciderlo. Perché è pesante. Non dorme sopra di me, tipo, a testa sua. Capito, ma se è vivo, con la fatica a prenderlo. Invece sarebbe abbastanza. Il mantello, apro e c'è lui appeso. Beh sì, in realtà sì. Sì, ci può stare. Sta dormendo, non vedi? Io ero convinto che tu fossi un mago perché avevi famiglia. Invece anche il ladro ha famiglia. Io ho il ladro, l'archetipo Mirmax. Ah, quello maghetto. Sì, dovresti ricordarti, l'ho già giocato uno in un'altra campagna. Sì, ma livello 1, che è morto instant. Bene, cari amici. È vero. Buonanotte. Buonanotte. Va bene, buonanotte. Avete visto di fatto il primo episodio della maledizione di Katta. Sì. Che ha così tanti giocatori che... Impazzirà. Ha più giocatori che persone che lo seguono. Sicuramente. Beh, quello più o meno come quello sempre. Siamo in overkill di giocatori. Grazie comunque per chi ci ha seguito, per averci seguito. Col fatto che avete mai come giocatore avete perso un follower. Posso torna a casa, Arci. Posso diventare PNG anziché un PG? Madonna, forse in più. Beh, sarebbe troppo facile un'avventura così. Adesso è ancora io. Questo combattimento qua non contava. Va bene. Anch'io posso dei danni. Ho capito, È quello che ha fatto più danni. Era un missile contro uno, nascosto dietro una colonna, insomma. E quindi si è fatto vera così. Beh, in realtà era grossa perché in non ha fatto di danni. Paio, era ciccione. In effetti un paio di noi, soprattutto l'ase, erano indecisi se colpire o no. Perché i nostri danni erano mezzi smaltiti lì. Vabbè. Sì. Comunque va bene, grazie per averci seguito. Vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti. Vi diamo appuntamento alle prossime sessioni. Vabbè, i prossimi. E niente, buona serata, buonanotte a tutti. E vi ricordiamo sempre che se Master a catta dovete giocare anche voi. È in direttissima cosa. Questo è esatto. Ah, non lo sai, ogni sessione avrai più giocatori. Ah, sì, ah, sì, è vero, anche degli altri volanti. Sì, sì, è vero, ogni sessione sei tu. No, no, davvero, davvero, anche se non giocare. Vero. Sì, sì, hai detto di sì. Io ho detto lui. Sì, sì, penso sia tu. Sì, sì, certo. Tuo cugino. No, ecco. No, il tuo former cugino. Ragazzo. La mia cugina cugina. Former cugino. No, in realtà che coppa, in realtà ha detto che vuole giocare a Call of Duty. Sì, in realtà è vero. Ah, sì. Per rompere i coglioni a personaggio perché mi ha minmaxato, ha detto. A Coloni? Qual era Coloni? Quella diversa. Quella diversa. Quella a cui anche tu hai partecipato. Ma la continuo? Quindi va bene. Ciao, ciao. Per sapere quanti sono. Devo giocare un pizzo a livello alto perché lo smettiamo tutta a metà. Che abbiamo detto, abbiamo detto all'altro master che abbiamo giocato finché non fossimo non avessimo raggiunto il livello 20. Quindi ci ha fatto salire due livelli una sessione perché ha detto che se no non finiva più. Ma i livelli epici ci sono? Sappiamo come è finita. Sono un altro punto. Come no? Beh, c'è qualcosa di regole però. Dopo fare le multiclass. Forza. Preparate. Secondo me ci sono dei talenti. Quelli qui. No, beh, per fare una build proprio estremamente figa, cioè ci vogliono comunque un po' di livelli per fare le multiclass. Secondo me.